parlato di prima. Benvenuti. Benvenuti a quello che è a tutti gli effetti il grande bro. Oggi giocheremo a paranoia. Poi due schede. E la sensazione è che morirei per primo. Ho due schede. Perché ho due schede? Non lo so, ne va bene. Tanto usi sempre la stessa anche se muovo. Qualcuno mi controlla la diretta? Facciamo un check. Vabbè, vado io. No, su telefono. Che questo è un coso. Hai il diritto anche a un bicchiere? Sì, sì. Staccarmi il tuo wifi, capito? Sì. C'è la password? Beh, hai messo un'altra volta, no? Va bene. In diretta ora, bene. Siamoci tutti così salta. Allora ti spiego, passo alla vita in modalità Giulio, così. Quindi non mancherà Giulio, in realtà. Probabilmente anche lei tra un po' la ritroverai così. Va bene. Scusate un secondo, non ci sono. Va bene, allora intanto l'introduzione, praticamente la farà Master tra poco, penso, in modo più dettagliato, ma l'idea di base è che oggi noi giocheremo a paranoia guardando il video. Direi. Sempre la finlandese. Sì. Ok. La Finlandia. Sessione. E in questo mondo però il computer che controlla il mondo, tipo 1984, è Yak, ovviamente, e non poteva essere altrimenti. E niente, per l'ambientazione lasciamo lo spazio al Master, che ci dica qualcosa di rilevante. Si chiama Master in questo gioco, sai che ci tengo. Non è sceneggiatore o altre storie. Allora, intanto pensavo di giocare a paranoia, però cambiando qualche dettaglio per rendere più semplici le cose, così io non divento scemo, voi non diventate scemi e Arci non fa cazzate con la sua mano sinistra. Guarda, non ho capito. Bene, qualunque cosa non faccia fare cazzate a Arci, io la provo. È un coccodrillo come tutti gli altri. Non va bene. D'accordo. Allora, come il nostro socio di maggioranza ha introdotto, l'ambientazione sarà simile a quella di Paranoia, quindi un unico grande computer che governa tutte le vostre vite, e solo che questo computer è Yak. Quindi la città si chiamerà Yak Asylum, che non può essere troppo normale. E in questa città ognuno di voi deve seguire le direttive di Yak, le direttive del vostro signore, bot, dio, eccetera. Chi non le segue è bollato come traditore. Il traditore, la pena per il tradimento è la morte. Lurido traditore! Lurido traditore. I vostri... le persone più importanti in questa città prendono il nome di bro, e questi bro hanno il grado più alto, sono i più fedeli a Yakbot e seguiranno tutte le direttive. Voi avete maggiore libertà dei bro, però dovete comunque seguire alcune regole semplici, tipo uscire fuori la sera a mangiare. Non si è può. Una cosa... Bravo. Ma questo... scusami, cioè c'è chi lo fa comunque questa cosa? No, quello è tradimento. Ah, ok. Cioè non c'è neanche chi gli dà da mangiare, immagino. Quindi i locali sono chiusi, praticamente. No, ovviamente ci sono locali, però nessuno va lì. è per testare, no? Tipo il governo... pagherà così qui per stare aperti esattamente. E vedere se qualcuno ci va e nel caso punirlo esattamente e... però per esempio se voi ma vuoi dire. Se però voi, per esempio mangiate cibo etnico che potrebbe essere tipo un piatto di pasta asciutta potrebbero non esserci problemi, ovviamente un bro non lo farà mai. Quindi per dire adesso una cosa, il formaggio in questo mondo non si può mangiare. Non questo, sì. Cosa stai dicendo? Il formaggio è scomparso molti anni fa, era quello che impediva al nostro mondo di progredire. No, anche lì, per esempio, se voi volete bervi un caffè e metterci del latte dentro, veramente così. Solo se il latte è montato, solo se è un cappuccino, chiaro. Yaka è a casa da bere sempre a casa mia solo con latte normale. Con latte normale, ma si adatta, quindi voi potete farlo, però un bro non lo farebbe mai. Vabbè. Ok, altre regole di base? E il vostro, voi avete un lavoro? Sala hai messo quel mio server, vabbè. Il lavoro non... giusto, il lavoro. Come, scusa? Passato, non è segreto. Un'altra cosa. Ci sono classi sociali, ovviamente, e sono differenziate a seconda della vostra vicinanza con Yakbot. Le classi più stupide a cui voi appartenete sono quelle anche più libere, per modo di dire, e sono i lavori più banali, i lavori che potrebbe fare chiunque. E sono i lavori come insegnante, come impiegato, avvocato, dottore, eccetera. E ognuno di voi... Insomma. Sì, sì, chiunque laureato è adatto a quel mestiere. Sì, però non conta nulla ai fini dell'amore verso Yakbot. Ah, ok. E quindi non conta un cazzo, capito? Cioè, un conto è essere un ben pensante, un conto è essere voi e un conto è essere un bro. un conto è essere un bro. Beh, bro è la carica più alta, ovviamente. Voi, ognuno di voi è un po' ambizioso, quindi ognuno di voi aveva un lavoro, ma ha deciso di fare domanda comunque per diventare un agente. Un agente che... al compito di cercare i traditori luridi e di denunciarli o presentarli alla decisione di Yakbot o anche terminarli. Sì. Quindi ognuno di voi aveva un mestiere precedente, non vi conoscete tra di voi, ma ora siete tutti in una stanza perché siete tutti stati presi per questo nuovo lavoro che vi dà possibilità a promozioni e a avvicinarsi di più a Yakbot, quindi siete tutti in questa stanza e attendete istruzioni. Sì, sì, scusami. No, stavi dicendo tu, vai pure. Sì, una cosa, voi avete tutti un vostro nome, che lo scegliete voi, e... E già, uno è morto. Che cellulare hai, Fio? E già un cellulare che fa questo rumore, magari, sento, se ti vuoi avvicinare a me. Sento una suoneria polifonica. Com'è WAP? Ah, WAP non esiste più da... Vabbè, ovviamente no. Allora... ovviamente no. Ma siamo tutti umani, scusa la domanda. Sì, siete tutti umani. Cioè, in questa società di cui esistono solo gli esseri umani, non ci sono razze strane. Cosa vuoi dire? Allora, un paio di cose che mi sono venute in mente. Sushi dolce. Sushi dolce. Tipo greco barra. Dicevi? Quello è Marco, vabbè. Dicevo, scusatemi, allora, ognuno di voi ha un nome. E questo nome è seguito da un numero. Che il numero è 1 per ciascuno. Perché nome e cognome o solo il nome? Come vuole, come preferisce. Può anche avere solo il nome. Mi chiamo Ness. E poi devo mettere E ognuno di voi ha un numero, che è 1. Questo perché ognuno di voi ha altri 5 cloni che sono stati creati in caso di malfunzionamento del vostro 5. Personaggio primario, sì. Malfunzionamento potrebbe essere un tradimento, potrebbe essere la presenza di una mutazione che lo rende un luido ben pensante. Quindi la mutazione non va fatta, cioè non va fatta. Siamo tutti nella solita merda e dobbiamo tutti essere uguali e essere depressi insieme. E l'altra cosa, ognuno di voi potrebbe essere un traditore perché appartiene a una società segreta che è male. Indipendentemente dalla società segreta, non si può pensare diversamente da Jacobot. Chiaro? Sempre si è notato. Ora, questo mondo è un mondo fantascientifico che ha telecamere, microfoni, ovunque, e Jacobot può usarli per controllarvi. Chiaro? Sì. Domande? Domanda è... Cioè, tipo, noi le regole di comportamento da tenere in teoria le sappiamo, no? Quindi in alcuni momenti, se abbiamo dei dubbi, possiamo chiederlo a te come master cosa sarebbe giusto fare? Sì, vediamo. Cioè, okay, un po' interpretiamo, però nel senso, uno c'è un dubbio. Vediamo, allora, vige il principio di dire sempre di sì a Jacobot. Ah, quello che è, d'accordo. E però... per il resto sì, alcune cose di base chiedete. Ok, quindi noi adesso siamo tipo tutti agenti di questa organizzazione qui che dicevi tu. È il vostro primo giorno, siete appena sì. stati convocati nella, diciamo, siete nell'ingresso della sala conferenze dove verrete presentati al vostro capo. I nostri mestieri comunque non sono segreti, giusto? Tra di noi nessuno di voi si conosce. E poi un'altra, volevo chiederti anche un'altra cosa, cioè noi non abbiamo conoscenza di uno degli altri, delle sue caratteristiche eccetera, ma se uno vuole usare una sua caratteristica che vuole, cioè diciamo, se, lasciandola senza che gli altri lo notino, come lo comunica a te? Me lo può, allora, se voi siete giocatori di ruolo, quale penso che voi siate, potete distinguere tranquillamente cosa vuoi dire? Ciò che succede in gioco da ciò che succede fuori dal gioco. Ok, va bene, era questo che volevo. Okay. Però se preferite mandarmi un messaggio, potete mandarmi un messaggio, mi sembra una roba un po' più laboriosa. Sono un po' di WAP, però poi non so Jacobot come la prende. Esatto, usare WAP sarebbe sbagliato. Questa era una delle trappole. Cos'è WAP? Va bene, ok. Io ci sono. Bello, domande? Perché non scrive niente, perché sennò voi lo leggete. Perché voi avete una scheda di... Cazzo, ho già una pellicina. Ah, no. È vero, okay, scusate, visto che le schede non sono state fatte, tranne alcune cose personali di ognuno di voi ora tirerà un tiro da 20 per ogni caratteristica e può ritirare due risultati. Ok. Non potete mischiare e scegliere voi dove mettere le cose. Voi tirate un dado da 20 per il primo, poi un dado da 20 per il secondo, poi non si possono rimescolare. Ok, le caratteristiche sono gli attributi, cioè sono un sacco. Esatto, sì. Ah, no. Sono 6 tipo, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e poi c'è anche la colonna destra. Sono due colonne, sì, no, ha ragione. La colonna destra non c'entra niente, deriva dalle caratteristiche. Ah, ok. Quindi sono tipo queste otto qua, e di queste due volte possiamo ritirare, giusto? Esatto, sì. Però funziona che... Ma tirate in ordine, falla. Sì, esatto. Uno, quindi dico due, forza, tre, quattro, tiro, e quello che viene è forza. Hai capito? Forza, tiro, e quello che viene è forza, sì. No, e tu hai detto capito. Che due sono si possono ritirare. E gli attributi però sì. ci sono. Sì, però cioè, Dio... Queste... Scegli alla fine o sul momento? Diciamo, ok. Sono le principali che attivano poi le skills. Quali sono cos'è Chuzpa? Non lo so. Cos'è Chuzpa? Che cos'è? Allora. Chuzpa. Vi leggo direttamente la descrizione, così è più facile. Un di 20 per ogni abilità. Scusatemi. Tiro di 20 e scrivo il risultato. Sì, ha detto che tiri il dado per ognuno lo scrivi. Che culo, 5-20 ho fatto! Giusto? Due dadi erano. Ecco qua. Allora. Attributi. Perché non ho un indice in questo cazzo di manuale di merda? Come quello di Urban Heroes. Questo gioco è abbastanza vecchio. Ma è un gioco italiano? No. Sì, forse potevo dedurlo dalla scheda in inglese. E E come si chiama il nostro service group? Ah, il vostro service group è il lavoro che facevate prima di questo. Dobbiamo dirti il nostro nome, le nostre caratteristiche? Le caratteristiche... Frega. Non è quello dove siamo adesso, scusa. No, adesso siete tutti nello stesso gruppo. Appunto. Non è quello. No, è perché non ci sono classi, tutti i giocatori fanno lo stesso lavoro. Sono ultra dolci. Le dolci mediterranee. Quindi, se non sbaglio, abbiamo la forza, vabbè, la... scusatemi. La forza è la forza. Agilità. Agilità. È usare le armi agili, usare le armi in corpo a corpo e usare le armi a distanza. C'è differenza tra agilità e destrezza qua? Sì. Mm-hmm. Ok, va bene. No, scusatemi, ho detto una puttanata. Allora, agilità sono le armi in corpo a corpo e anche evitare come se fosse un tiro salvezza. Mm-hmm. Destrezza invece è l'utilizzo delle armi a distanza e l'utilizzo di veicoli. Oh, c'è anche Jacobot nei tra i meccanici. C'è scritto Jacobot. Sarebbe Jacobot, scusa, probabilmente, però. No, no, beh, Jacobot è chiaro. Un segno. Ben pensanti. Tiriamo gli eventi? No, aspetta. Allora. Venti. La forza è sempre forza fisica. Ok. Endurance è la costituzione, di fatto. Resistenza? Qual è? Endurance. Moxie è quanto siete intelligenti, intelligenza intesa come capire il funzionamento di qualcosa, capire... Cioè, più intelligenza logica, diciamo. Sì. E Chutzpah è la sorta di carisma. Ma non si... L'ha detto alzando il sopracciglio malamente, quindi non abbiamo nessuno di noi ha del carisma. Questo va da dove dipende. Nel senso è più inteso come paraculaggine, tipo il culo oppure fare la faccia da culo, le supercazzole, ste robe qua. Insomma, il ciupa, okay. Possiamo decidere di ritirare alla fine noi comunque, giusto? Sì. Okay. E l'attitudine meccanica è appunto l'abilità di capire macchinari complessi. E poi c'è il power. Power è come il tiro di controllo di Urban Heroes. Ah, tutte queste qua le abbiamo tirate, tutte e sette, no? Sì. Il tiro di controllo di Urban Heroes lo usiamo quando... Vai, cominciamo. Aspetta, un'ultima cosa. Tiro su controllo per vedere come... Vi dico, scusate un secondo. Allora, quelle sulla destra sono derivate da quelle sulla sinistra, e ve le dico dopo. Ok. E le abilità, invece che fare con i punti abilità come bisogna fare, voi in base al vostro lavoro e in base a quanto mi perculate sul il vostro background, mi giustificate l'utilizzo di un'abilità a cui io potrei dare un bonus. D'accordo. Come in Urbanismo. Le abilità si basano sempre sulle caratteristiche. Come vedete nel coso. Cioè, va bene. Tutto. Va bene, basta. Andiamo. Quindi però facciamo queste. Sì. Facciamo tutto, ognuno fa i cazzi suoi o te tiriamo davanti? No, no, tirate, ognuno fa i cazzi suoi. 20! Ega! Non ho ancora superato il 10. Senta, neanche io. Ma se vengono fuori dei personaggi imbarazzanti. Oh, finalmente un gioco in cui gioco di ruolo. Forza 1, Endurance 8, Moxie 16. Minchia, sono fortissimo. Madonna. Due possono essere ritirati, giusto? I due possono essere... Ho provato una scheda da paura! Cioè... Due tiri possono essere ritirati. Ah, due possono essere... Ah, io le ritiro... Sì. Ah, ma posso ritirare lo stesso due volte? No. Ok. Io ho bisogno di ritirare. Va bene. Oh, ce l'abbiamo fatta. Però aspetta. Grande, sono fortissimo! Io però ho due in power. Non so. È un cos'è il power? Ha detto che è tipo il dado di controllo di urbanismo. Io probabilmente se fai delle determinate non so se scusami, io che ho un 3 in agilità sono te. Domanda, se uno ritira uno deve accettare quello che viene dopo? Esatto. No, può scegliere. A poterlo più alto. Sì. Allora proviamo. Sì, esatto. Prova Mox, esatto. Il Mox. Vedi? Impressionante. È un supereroe. Ti dico, la mia più bassa è 15. La cosa divertente è che in questo gioco più che le abilità non so cosa cambi, però più che le abilità serviranno a interpretare le regole e secondo me tu ovvio, rischi tantissimo. Ma infatti immagino, perché sennò la cosa meccanica l'app è capire il funzionamento di macchinari complessi e di computer e di tutto ciò che ok, in base a quanto avete tirato nelle caratteristiche, avete un modificatore che va alle abilità. Quindi chi di voi ha tirato dal 18 a 20 ha un modificatore che è 5. In quali? In quelle dove hai 18 dove hai da 18 a 20. Infatti in Chutzpah tu cosa hai? 2, immagino. No, scherzo. 5. Quindi più 5, allora sono 2. E dove lo scrivi, scusa? Di fianco le abilità, se no, direttamente. Non c'è il power però, per esempio. No, power non c'è il power. Sotto lo scrivi semplicemente in quelle delle skills. Sì, anche. Cioè tipo agility skill base in base a quante parti di agility. Esattamente, hai. Sì. Va bene, poi quindi da 18 a 20 è 5, da 14 a 17, no, da 15 a 17 è 4. Ok, vabbè, 14 allora. È 3. Aspetta. Arriva, io già sono già finito. Non mi faccio sentire così alte. Come Arci? Ripeti un attimo. Allora, dopo il 20, forza. Qual è il secondo coso? 15, 17, 4. State qua. Ok, poi? 14, 3. Ok. Anche solo minchia, ragazzi, no, siamo anche 20 sezioni, anche 11, 12, 13. 11, 12, 13 e 3? Sì. Ok. 7, 10 e 2. Ok. 4, 6, 1. Altrimenti 0. Vabbè, non c'è problema. Vabbè, magari non hai il potere. Allora. 7, 10 e... Vi spiego come funziona il tirare abilità in modo un po'... diverso da com'è da regolamento, però è più facile. Allora, quando dovete tirare un'abilità, voi tirate un dado da 20 riferito all'abilità. Se per esempio voi doveste tirare una prova di forza... No, a te, aspetta Shio, vai pure. Fate una prova di forza, sollevare qualcosa, mi tirate un dado da 20 e la difficoltà è il vostro punto abilità. Quindi se voi avete un 4 in forza, per esempio, la difficoltà sarà, cioè il tiro dovrà fare meno del vostro punteggio. Se la prova è facile, il vostro punteggio sarà per 3, quindi 4 per 3. Se la prova è media sarà per 2, 4 per 2. Se la prova è difficile sarà meno di 4. Ok, capito. E le azioni facili e ovvie vengono fuori normalmente. È per quello che il gioco è alta mortalità, perché non è facile. La CD funziona all'esatto opposto di come funzionano gli altri giochi di ruolo, di fatto. Devi fare meno di quanto era. Beh, dipende dall'altro gioco di ruolo, non me ne era, è così. Devi far meno. Cioè, ad esempio, tu quanto hai in forza? Hai 4, no? Se devi sollevare una cosa devi fare meno di 4 se è difficile, meno di 8 se è media, meno di 12 se è facile. Ok. Con un tiro da 20? Voi avete meno scritto di fianco a base, giusto? È difficile, ma il range più basso... Voi avete scritto di fianco a base, no. Ah ok, ma comunque per lo alto è utile. No, vabbè, niente. Sì, cioè, è utile, ma... però non cambia troppo, ok. Esatto. No, niente, ho detto una cagata. I tiri invece fatti contro gli altri giocatori li sommate. Sommate il modificatore. Ah, ok. Come D&D. Qui come normale. Esatto. Ok, e qui è un po' diverso dal regolamento di base, ma è più semplice per me, e quindi farete così. Sì. Se mi giustificate il background, vi potrei dare un bonus, oppure vantaggio, oppure la cosa riesce e basta. Detto questo, direi che potete cominciare. Siete tutti in questa stanza e non vi conoscete. Aspetta, forse non hai spiegato una cosa che io avevo letto. Vedo che non hai la giacca. Security clearance, forse dovresti spiegarlo. Il security clearance è una roba che serve nel gioco di Paranoia, perché tipo, non so se avete presente, community, cioè nel senso ognuno di voi dovrebbe avere un codice colore che determina il grado che ha. Quindi se per esempio uno è verde, si veste di verde o ha delle cose verdi, vuol dire che è di grado verde ed è superiore agli altri. Questa cosa non c'è in Yak Asylum, ma voi siete comunque delle mezze seghe. Ok, io vi ringrazio. Quindi cosa dobbiamo dirti noi? Nessun skill ti dobbiamo dire, sono delle nostre attribute. Non mi interessa. Beh. Allora, siete tutti in questa stanza e siete tutti vestiti con una polo Ralph Lauren e dei jeans Calvin Klein. Tutti uguali. Cosa che hai detto? Se mi controlli la diretta sana del video. Ragazzi, innanzitutto, ben vestiti, complimenti. Ti ringrazio. Bello anche il tuo vestito. Grazie. Anche il tuo, bello anche il tuo. Grazie. Anche il tuo, molto bello. Ma qua dobbiamo davvero viaggiare come se fossimo dei ritardati. Cioè, è normale, non ci stiamo sfottendo. Secondo me io ho detto direi già uno a... ci sarà un saluto che è tipo, come va, la solita merda, ste cose. Sì. No, quello sì, però dire bel vestito e sali presa per il culo, visto che ce l'abbiamo uguali. Attenzione. No, la gentilezza è alla base del... Oh. No, è tipo la formalità, è tipo normale, come se tipo ti darti del lei. Ostentare gentilezze alla base di questo sistema. Vabbè, mi porta l'audio. Ciao belli. Ma l'elite bisogna comprare migliore, voglio l'HD. La prossima volta spendi dei soldi anche tu e vediamo se compri le magliette, magari. Scusate, no, togli pur l'audio che sennò va bene. Mi presento, mi chiamo Quinn Steve Mac. Come ti chiami, scusa? Ho già nel nome proprio. Cazzo, anch'io volevo un nome del genere. Come ti chiami, Kat? Bello, grande, grandissimo. Quinn di nome, Steve Mac di cognome. Quinn Steve Mac. Ok. Uno. Io sono Ines. Poi sarai Amnes 2. Se. Da Idobon a nessuno. Non male. No, il nome è Amnes. Ciao Aim. No, io non ho un nome divertente. Io mi chiamo Marvin Not 1. Ah, so che merda. A merda il nome, lascia stare. No, a me piace, mi sembra un bel nome. Ti ringrazio davvero, però è una merda. Io mi chiamo Adam Cadmo. No, beh, però lo faccio senza la voce di Yak. Ti ringrazio. La voce dovrebbe essere la nostra. Sì, ti ringrazio, però è una merda. Però grazie, ti ringrazio davvero. Ti ringrazio. È una merda. Il mio nome è Adam Cadmo 1. Bel nome, Adam. Grazie. Piacere di conoscerti. Piacere mio. E tu, chi sei? Io sono Rose 1. Ciao Rosuno, piacere di conoscerti, bel nome. Bellissimo vestito e dei bellissimi nomi. Anche tu, complimenti. Non è un problema, grazie. Ah, ovviamente anche tu, Ambra, hai un polo di Ralph Lauren e i jeans come gli altri. Siete tutti uguali. È il principio su cui si basa la società di... Primo abbinamento, complimenti. Grazie, ti ringrazio. Quindi noi siamo qui dopo aver mollato il nostro lavoro per tentare di entrare in questa società come agenti. Voi siete stati, cioè voi avete tentato e siete stati presi. E siete qui perché aspettate di entrare per le presentazioni. Tipo colloquio. No, non è il colloquio, è tipo il primo giorno. Ah, proprio già cominciamo. Ah, okay. Spiego. Ok. Ma... quant'è la paga? Io però... la paga è buona. Non è male rispetto a... alle paghe che avevate prima. Perché il... questo lavoro è abbastanza pericoloso. Comunque io non riuscivo a permettermi un grande fuori. Ok, ma puoi anche stare vicino agli airport, non conta lo stipendio, però è ok, la stanza è abbastanza spoglia, non c'è un cazzo, neanche una sedia, e in fondo c'è una porta vetri tipo quella degli uffici di polizia. Dopo un po' che siete lì si apre la porta ed esce un signore di mezza età, completamente vestito Armani. Buongiorno, potremmo vestire come lui. Sarebbe bellissimo, sarebbe meraviglioso. Ma ci siamo dagli da babbo. Ciao a tutti belli. Cosa hai detto? Ciao a tutti belli, come va? Solita merda. Ciao, solita merda, grazie, tu? La solita merda. Posso fare anche dei gesti? Io tipo... Ok, sono molto felice di darvi il benvenuto qui e per questa nuova giornata di lavoro di tutti voi abbiamo una sorpresa. Parlerete direttamente con Yakbot in questa stanza, che vi darà le direttive del vostro primo compito. Prego, entrate. Non so se sono degno, però grazie per l'opportunità. Quindi scusate, Sala, quindi noi siamo una specie di team? Sì. Sì. Che però appena formato. Appena formato così a raglio. Sì. Okay, ok, entrate. Ed è una sorta di sala conferenze. E in fondo c'è uno schermo. E vi potete accomodare. E quando siete tutti seduti, lo schermo si accende. Vedete la faccia di Yakbot. Non so se mi voglio sedere, non vorrei sguarcire i pantaloni, però dobbiamo farlo. Ciao a tutti, nuovi membri della mia squadra, della mia preferita squadra. Sono molto felice. Sono molto felice di avervi qui. Felice per voi, ovviamente. E... anche noi siamo felici di fare per te. Felice per te. Ah, e grazie, ma no. Sono quindi molto contento per voi di avervi qui e spero che questa sia una bella barba, Jacopo. Bella quella barba curata. Ah, sì, grazie, ma non sono una persona reale, quindi non posso avere una barba curata vera, purtroppo. Cosa vuoi dire? Che schifo. E quindi, bando ai convenevoli, direi di introdurre subito il vostro lavoro. Voi siete una squadra d'élite, elitaria, e potrete anche aspirare a diventare bro un giorno, magari. Non so se sono degno. Forse. E per questo sarò felicissimo di darvi di non darvi delusioni, e anche se non so se riuscirò in questa impresa, perché non potresti mai deluderci, Yakbot, mai. Ah, grazie. E quindi ok, e voi siete tutti qui come squadra, come team. Uno di voi dovrà farsi l'onore e l'onere di diventare il vostro leader, e in quanto leader coordinerà gli altri. però siete una squadra. Non dimenticate mai che questo è come un gioco e l'importante è che voi siate felici e tristi e nella solita merda tutto il tempo. Sì, Jakbot. Come dici tu. Grazie, bello. Grandi parole, Jakbot. Grazie, grazie di aver... La depressione. Vi verrà assegnato un equipaggiamento, purtroppo sarà standard per ognuno di voi perché non abbiamo una zecca qua dentro e quindi non possiamo permetterci. Lo sappiamo bene, Jakbot, morte alle zecche. Per il vostro primo lavoro, la missione è piuttosto importante. C'è un nostro sito di produzione di giacche, giacche Armani, ovviamente. Purtroppo... Destrutturate, spero. Destrutturate. Ovviamente. Ovviamente, sì. Purtroppo c'è qualche lurido traditore. E che schifo! È entrato nottetempo, si è introdotto in questo stabilimento e ha sgualcito tutte le giacche. No! No! No! Lu! Come si chiama? Lu! Voi dovrete trovare questo lurido traditore e consegnarlo a me. Sarà un piacere farlo, Jakbot. Per e a te. Quel punto io lo toglierò dagli amici. Sì, una giusta punizione. Pensavo ci potesse levare tanto. Vi lascio al vostro supervisore. Sono veramente felice per voi. Congratulazione. Grazie, Jakbot. Ti ringraziamo infinitamente. Ah, beh. Ok. Ok. Va bene, ora ciao, eh. Ciao. E si spegne. Ciao, Jakbot. Grazie, Jakbot. Ok, come avete sentito, uno di voi dovrà essere il vostro leader e coordinatore. Magari se avete esperienze passate che vi danno un vantaggio, vi consiglio di approfittarne. A livello di giocatore, quello che meglio di tutti conosce il regolamento al quale siamo sottoposti, credo che... Io non penso di essere molto degno, però forse è meglio comunque che ci diciamo che cosa abbiamo fatto in passato, magari possiamo arrivare a una decisione. Se qualcuno di noi ha ricoperto in parte un ruolo di leader già nel suo lavoro o meno, potrebbe essere adatto. Io no. Io ero... Ma possiamo dirlo, sì. Cioè, sì, anche da voi normale, sì. Ovvio. Ero il tecnico della metropolitana. Perché in questo mondo la metropolitana si guida da sola, però comunque c'è un tecnico della metropolitana e io questo... Beh, mi sembra un bellissimo lavoro. Sì, però lavoravo da solo, quindi non sono tanto abituato. Comunque un bellissimo lavoro. Era un bellissimo lavoro, però congratulazioni. Grazie. Ma perché io credo di inverno. No, io è una responsabilità che non mi voglio prendere perché non, oltre al fatto che ovviamente non sono degna nemmeno io, però non sono abituata a dare ordini, se non che sono più abituata a seguirli. Che lavoro facevi? Ero un soldato e quindi non ho mai ricoperto cariche. Congratulazioni, bellissimo lavoro. Poi, comunque. Una società di merda in cui tutti sono così accondiscendenti. Non è per niente. Non è per niente facile. Come hai detto, scusa? Congratulazioni. Ma che è una società orrenda in cui tutti dicono: oh, complimenti, oh, bravo, oh, bello. Colpisci ancora di quelle palle con la mazza. Come hai detto? Lo sto dicendo. Non ho capito. Sto dicendo da giocatore. Ma che cosa sta dicendo? Non cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Quindi voi non dovete lavorare con delle divise distorturate? No, assolutamente. Nessuno di noi. Che bellissimo lavoro. Credo. Nessuno di noi è degno di lavorare, a meno che non diventi un bro, ma fino ad allora non potrò. Tu invece? Io purtroppo non facevo cose molto appassionanti, ero impiegato a Yakasylum nell'amministrazione e mi occupavo di archiviare tutte le pratiche in ordine. Dei lavori di sì, non è certo un di quei lavori cosa appassionanti facevi? Come il pilota di elicotteri. Cosa ha detto che faceva? L'impiegato. stazione. Impiegato statale. Beh, però ora sei Queen con noi. Sono... No, deve essere molto felice per voi. Guarda che comunque è un lavoro molto onesto e molto, cioè, pieno di... Non tutti lo possono fare, congratulazioni. Grazie, ma non è niente di speciale. No, bel lavoro, bel lavoro. Io ero un insegnante di storia, anche se in realtà sbaccio. Che onore, è il livello più alto possibile, cioè la cosa migliore. Infatti è un lavoro che faccio per passione, perché facevo un corso solo sulla seconda guerra mondiale. Congratulazioni, cioè è bellissimo seguire la propria passione, poi una passione così nobile, grazie. Congratulazioni, la più nobile. Poi è bellissimo, cioè, comunque grazie. Sapere tutte le divise, come i vostri lavori sono tutte belle, le cioè il modo in cui le sai tu sicuramente non ne sa nessuno di noi. Io stavo su un treno che andava avanti indietro da solo, però bello, no? Bello, tu non stavi neanche sul treno, tu eri tipo seduto lì che guardavi il treno andare avanti. bellissimo. Mi faccio le congratulazioni. Io di mi fatto vedere il treno. Come hai detto? Bellissimo. Quindi non era una merda per te. Io. Quindi eri felice di fare quel lavoro. No, io dicevo che il suo era bellissimo. Ah. Il mio era una merda. Sarà meglio. Beh, io comunque ero segretario nella pubblica amministrazione, però era, cioè, comunque ero abbastanza inutile, infatti non credo di essere bene mai per questo. Devi fare purtroppo no, non ho mai avuto, Purtroppo non ho mai avuto l'onore di conoscerti prima, e forse anche perché evidentemente ero un po' considerato una merda, anche giustamente, cioè purtroppo non riesco mai in quello che vorrei, davvero. No, invece ti vedo comunque molto ben inserito, mi sembri uno... No, ti ringrazio davvero, non però... ti ringrazio davvero, però sì, come dicevo, cioè... Diciamo che ci sono altre le cose che contano, ecco. Quindi nessuno di voi immagina abbia un'anima gemella? Perché io so... Lì è esatto come funziona! Come funzionano gli accoppiamenti in questo mondo? Non si può avere una fidanzata, no? Cioè bisogna vivere nella sofferenza che non si ammazza, nel giusto salvo. Che bastardo, Argi. No, secondo me sì, si potrà. Non lo so, abbiamo... Cioè, alla fine... Salla però, allora io gioco al cellulare. Ah, guarda, c'è della gente che vuole parlare con me. Carini. Scusate, mi hanno chiesto di fare guest in un episodio. Magari decidi di accettare altri lavori, che fai carini. Questo se riesci. Ci siamo chiesti come funziona l'accoppiamento e le relazioni in questo mondo. Cioè, se si può avere un'anima gemella, no, è come non esiste più l'accoppiamento né niente del genere. Il genere umano ora è diventato si produce per clonazione per fecondazione artificiale o per fecondazione artificiale. Perché ogni persona pensa di essere troppo brutta per potersi permettere di stare con altre persone e o non disperata tanto da... Spero che Jack non guardi mai questa cosa. Va bene, ci muoviamo tutti su una linea sottile tra il tradimento nel mondo reale. Siamo oltre, direi. Anche se ha detto che gli è piaciuta l'immagine, sì. Che dicesse scusa, anche se la faceva i compensi, diceva bazza, bellissima. No, avrebbe dovuto dire, ma che immagine di me? Che è successo? No, esatto. Infatti, io mi aspettavo, tipo, sì, va bene, ok. Quindi chi è il vostro leader? Io direi di eleggere il militare. Sì. No, aspetta. Sì, lei è il militare. Tu sei il colonnello. Io giocavo con l'insegnante. Andiamo per lavoro. Allora, il discorso è che lui è abituato a gestire persone sotto di lui, perché comunque era un professore, un insegnante. voi siete abituati a dover gestire cose che si incastrano, perché se avete a che fare, allora, con la burocrazia, comunque avete il meccanismo mentale. Cosa gestisce un insegnante di persone sotto di lui? Dei 14 anni. Il mio lavoro, il mio livello, lavoro a livello pratico, in cosa consisteva? Cioè, semplicemente era un segretario, così. Segretario? È quello che... Dai, ragazzi, appuntamenti. Scegliamo... No, per dire, lei che è stata in teoria l'unica che ha un addestramento gerarchica, per cui sa come funziona. In teoria ha un addestramento. L'unica che ha un addestramento comunque per quello che riguarda un gruppo di persone. È addestrata. Allora, e comunque c'è un aspetto importante, direi, da considerare, che lei è una donna, quindi è superiore a noi. Hai ragione. Nell'iachismo è così. Beh, cioè, no, sicuramente la metterebbe al primo posto. Attento a quello che dici. No, beh, comunque... No, siamo tutti uguali. Beh, lei si veste un po' meglio, però. Anche tu. Grazie, anche tu. Anche tu, in realtà. Comunque no, non siete tutti uguali. Iac, come la pensa sulle donne? Donne, Iac non dice che sono superiori. Dice semplicemente che... No, non uomini e donne. Voi come persone non siete tutti uguali. Voi siete migliori di ognuno degli altri, ma e vi sentite peggiori di ognuno degli altri, e ognuno degli altri si sente peggiore di voi. Diventando una sessione filosofica. Cioè, si deve sentire, ma cosa che non è che ti senti, però ti devi sentire di fatto. Non lo so. No, ti senti. Cosa volevi dire, Vez? No, che mi sento peggiore sono peggiore degli altri. Cioè, di fatto, hai letto, nel senso che i quattro devono decidere che l'Ambra è leader, mentre lei si ribella al fatto di essere letta leader. In teoria dovrebbe far così. Esatto. Sì. Ma in questa società uomini... sarà un momento in cui... Vabbè, ragazzi, ma forse è l'unico modo... In questa società uomini e donne sono visti allo stesso modo, sì. Sì, siete tutti nella solita merda. Sì, però tipo... No, però magari bro, tipo le donne non diventano bro, è diventano difficile. Cis. Bro anche no, sì, anche... Bro anche donna, chi se ne... Cioè bro è la carica, è come dire, è generale, non c'è generalessa. Esatto. Beh, c'è dottoressa. Nessuno di noi, no, io non sono degno di cielo. No, raga, ognuno propone, ognuno vota un'altra persona. La persona più nominata è leader. Vai, facciamo così, 1, 2, 3, 4, 5, uno gira il dado. No, io non lo so. E vota uno. Io... No, ognuno di noi dice un nome. Se no, adesso facciamo le schede, sarà... ognuno metterà un nome. È la stessa cosa, diciamo la voce alta. No. Capirai perché. Mandiamo un messaggio. Prima dividi un foglio. Mentre fuori dal gioco, ci mandiamo un messaggio a WhatsApp a Salla di Conta. No, così li vediamo noi. Ah, quello tu vuoi che sia palese il voto? No, voglio che, cioè, nel senso, uno li mischia. Io non ho WAP. Nessuno ha WAP. Cos'è ovvio. WAP? Nessuno ha WAP. E io non posso prendere un cellulare che me lo legge. Che cambia? Che non è altro che sono. Quindi cosa dobbiamo scrivere? Il voto che ne vogliamo fare? La persona che dobbiamo votare? Vero. Sì. Quindi io devo votare. Dopo che abbiamo votato, lo mettiamo dove? Dentro il cesto delle patatine. Facciamo leggere la pezza. Fai scemo. Non lo so, guarda. Vabbè, ma non devi piegarlo in un modo riconoscibile. Ah, ma se non si deve... Vabbè, regala, siamo in cinque, riconosciamo. Anche perché da come l'ho scritto si capisce che non l'ho scritto io. Vabbè, comunque... Numero... Beats. Cosa è questo? Non so, io ho paura di questo. Per me non... Di fatto ha votato in un modo per cui non ha votato. Allora, io non so se sono degno però di leggere i voti. Però li leggerai lo stesso. Però leggerò. Allora, il primo voto è non me. Non me. Ah, ok. Immagino che valgo pure. Nessuno. Però penso che sia tu. Cioè, non so se vuol dire nessuno. Ah, io sono nessuno, sì. Ah, quindi congratulazioni. Congratulazioni per il tuo voto. Congratulazioni per il tuo voto. No, complimentoni. Grazie. Grazie. Vezzino, non c'è nessuno che si chiami Vezzino. Nome del giocatore, personaggio. Boh, non c'è nessuno che si chiami Vezzino. Voto nullo. Sarà qualche sì, sarà qualcuno che non, giustamente. Allora, questo voto dice tutti degnissimi. Viva Jacopo. Però dentro non finiremo più sta cosa. Viva Jacopo. Sì, è vero. Viva Jacopo. Ah, vediamo l'ultimo voto, potrebbe essere quello decisivo. E non... Ah, Rose 1. Quindi siamo a pari merito tra Ness 1 e Rose 1. È giusto che faccia tu il capo. No, non è giusto che lo faccia tu. Io ho votato non merito. È giusto che... Tu hai votato no. Ok, lo farete entrambi. Ma io anche quando è... Ma anche perché... Però tecnicamente non avendo votato non me... Anche perché in realtà noi non abbiamo un leader, o meglio nessuno di noi, ma noi abbiamo solo un unico leader che è Jacopo. Quello è sicuro, è ovvio. Un leader della squadra. No, nessuno è leader, è solo Jacopo il leader. Siamo coordinatori. Ok, se avete deciso, potrete... voi risponderete solo a loro due. Congratulazioni, grazie. Congratulazioni anche a te. Congratulazioni anche a te. In caso di parità, è un piacere gestire una squadra di gente vestita come voi. Ve lo meritate entrambi. Voi due coordinerete in modo democratico tra voi due, ovviamente. In caso di parità, dovrete risolverla chiamando Jacopo. Detto questo, potete andare a prendere il vostro equipaggiamento. Prego, da quella parte. E indica una porta. Ah, ma dici che possiamo mettere anche la giacca di là? Capito, non vai a spaccare la porta. Devo tirare, non vorrei spaccare la porta. Però dove lo metto questo? Però dove lo metto questo cornicione? Non vorrei spaccare la porta. No, si è rotta questa quando sono... Quando Arci è venuto. Quando Arci è passato di qui l'ultima volta. Si è spaventata e niente. L'amica ha rischiato di rimanere chiusa in cucina perché tipo si è rotto il meccanismo dentro e quindi non funzionava più la... Vabbè, si è calata dal terrazzo. Se ve lo state chiedendo, siamo nella magione di Catta, per quelli che, di voi che ci seguono su Facebook l'avete già vista, ma da un'altra angolazione. Nell'episodio più visto di Unstructured Heroes, tra l'altro. Nell'episodio con più visualizzazione di Unstructured Heroes, ovvero il senso. Com'era? Questo è solo un killer. Filler. Filler. Un killer. Questo è un per killer. Me è stato un killer, credimi. Sì, è vero. Dove Sheo ha perso una gamba. Quindi, vabbè, adesso Arci non c'è, però lo puoi dire a noi. Andate in questa stanza, che è una sorta di grande magazzino, e per ognuno di voi c'è un armadietto con il vostro nome sopra. Ah, domanda, questa è tipo una caserma, tipo? Questa è tipo una caserma, sì. Ok. L'ambientazione immagino che non sia tipo una Bologna futuristica, no? No, è una città futuristica con macchine volanti e gente che non guida la macchina. Se solo qualcuno la prendesse. In realtà girano tutti a piedi. Ristoranti di lusso. E uno i soldi li usa per quello che gli pare. Ma soprattutto cioè, negozi si sprecano certo per soprattutto spacci di vestiti. Sì, tipo ogni 10 metri c'è uno spaccio Armani. Non mi sono perso. Si sta spiegando che nel mondo ci sono un sacco di veicoli volanti che però tipo nessuno guida. Ovviamente. Cioè, sono tipo autobus. Anche tu coordinavi la metro, ma la gente si spostava a piedi. Cioè, il mio lavoro è sempre più inutile. È un bel lavoro. Beh, se uno vuole prendere la metro, è libero di farlo. Io non lo faccio, però uno è libero di farlo. È il principio guida di questa città. Vabbè, adesso magari c'è un turista. Ha tirato fuori del cibo, Arci. Ha tirato delle monete o delle cose simili? Figo. Sì, tipo lo scoiattolino. Ha delle mandorle disguardate. Si è tirato fuori delle mandorle da fuori dal culo, è normale. Va bene. Dentro ogni vostro armadietto trovate. Grazie. Una divisa. No, un grammo meno. Una divisa che consiste in jeans, Armani. Sì, bellissimi. Bellissimi. No, secone. Secone d'ordinanza. Secone d'ordinanza. Polo Armani di colore rosso. Oh. Ma è un rosso naturale? C'è Armani. È un rosso naturale o un rosso borgogna? O un rosso chiaro? O un rosso yak? O un rosso sangue di un rosso grano? O un amaranto marcio? E una giacca? Sempre Armani. Non so se sono degno, però guardate com'è distrutturata. Ok, detto questo, non avete un istintivo. Penso che di noi passi circa 20 minuti davanti all'armadietto in adorazione, probabilmente. Nemmeno viene data una cintura. Dove è anche? Una fibbia con il distintivo della vostra divisione. Che è? Un'aquila. Che è un'aquila. Sì! Figata. No, prima della fibbia, scusate, c'era? No, ah, cintura. Dicevo che non avete un distintivo, ma avete la cintura con la fibbia, sì, che è il distintivo. Che figata. Una pistola. Potete segnare che il danno di questa pistola è 9. Damage rating 9? Sì. Titan? È L, ma vabbè, fate, non vi serve a niente, tanto sarà casuale. È il range, queste cose qua, no? Niente, facciamo tutto a interpretazione. Lo skill number invece è la dexterity. Dexterity, esatto. Il skill number vediamo 4. Sì, sei poi 4. Mettiamo 4, sì. Sei 4. Cazzo, anche tu hai 4. Sì. L'altra cosa che vi viene consegnata è un telefono con lo stemma dell'aquila sopra, un telefono. Sì, un telefono. Sì, con lo stemma dell'aquila sopra. Sì. Quando voi lo prendete, il vostro supervisore arriva e dice: ecco, questo vi viene assegnato per le comunicazioni, è molto importante. Questo telefono, grazie, non può fare chiamate, ma può solo riceverle e fare squilli ad altri telefoni. Mi sembra giusto. Come tutti i telefoni. Ma se volete, potete mettere soldi del vostro stipendio su questo telefono per fare chiamate. Ma probabilmente tutti avranno un telefono che fa solo squilli, quindi noi faremo uno squillo e ci risponderanno con uno squillo. Che è abbastanza. No, avere un telefono in questa città non è una cosa così comune. Perché la gente di solito non chiama. Cioè, è ovvio. È ovvio. Esistono i telefoni di casa almeno? No. Sì. Ma riceve anche messaggi o no? Riceve anche messaggi, ma non li può mandare. Ovviamente SMS. Ma da mettere i soldi arrivo. Sì. Ci sono altri messaggi? Sono altri messaggi? No, cioè i messaggi sono i messaggi, basta. Non c'è altro. Cosa stai parlando? Io mi devo un attimo assentare. Non capisco. Tempo ti lascio il comando, come è giusto che tu abbia. No, sarebbe giusto, però sbrigati perché da sola non ce la fa. Beh, ci metterà il tempo che di cui ha bisogno. Vi do questa carta geografica. Vi do questa carta geografica della città e su cui è segnato lo stabilimento incriminato, dove probabilmente ci sono dei traditori che hanno sgualcito tutte le scorte. Prego, potete procedere per questa missione. Arrivederci. Grazie, grazie mille. Bene, grazie vi ringrazio infinitamente. Direi di andare a piedi. Beh, ovvio. Quanto dista? Beh, no, piano. Se qualcuno vuole andare con un altro mezzo, è liberissimo di farlo. Poi però io andrò a piedi. Io raggiungerò a piedi, ci vediamo poi lì. È, mi sembra, è difficile dire queste cose senza la voce di Yaka, adesso mi risforzo. Non so, io lavoravo per la metropolitana è molto bella e comoda, ma andrò a piedi, effettivamente. Beh, è un lavoro nobilissimo, però sì, io vado a piedi. Sì, sì. Ma quanto dista a questo posto? È più o meno un paio d'ore a piedi. 12 chilometri. No, vabbè, vicino si può tranquillamente andare a piedi. Sì, sì, sì, due ore. Anzi, secondo me ci mettiamo anche meno un'ora. Io farò una deviazione per allungare un po'. Beh, se c'è un negozio di Armani, magari ci diamo un occhio. Quello sì. Ci sono solo negozi Armani. Cioè, no, non ci sono solo negozi Armani, ci sono spacci di diverse marche di vestiti in cui uno è liberissimo di andare. No, beh, si possono comprare anche altre marche. L'importante è che non sia tipo H&M, non c'è, oppure ce n'è uno. Sei libero di andarci, ma non ci va nessuno. Io però di solito i vestiti li compro su internet e pago alla consegna, con soldi alla consegna. Perché fa così, eh? Come hai detto, scusa? Come hai detto, Adam? Bravissimo. Ma questo è il computer che dice, ogni tanto ci rivolge la parola. Sì, ogni tanto esce tipo un altoparlantino che fa. Come hai detto, Ada? Che tantissimo. No, ha ragione il mio amico, è molto utile online. Ah. Ognuno è... Ma poi sono gli hackathon, come vuoi. Cioè, come funziona internet? Hackathon. Cioè, hackathon. Cos'è? Cioè, tipo gli hackathon. Eh? Come? Sei traditore, allora. No. Cioè, quali siti esistono online per comprare? Yux. Allora, intanto, di solito la gente non usa il suo computer di casa per acquistare online, perché non ha internet, perché costa. Quindi di solito usa i computer ai lavori, negli uffici pubblici, e c'è internet, sì. Bello, mi piace. Ti ricordi in Sardegna? Pensavo che usasse tipo... il computer del genitore, però effettivamente non essendoci il genitore, il genitore è lo Stato, quindi sì, ha senso. Okay. Dopo un paio d'ore di cammino arrivate in questo grande stabilimento tessile e c'ha un ingresso, tipo una porta molto grande di quelle da fabbrica. Ed è aperta perché la gente sta finendo di lavorare. Ora è sera, sono più o meno le 6:30, quindi finiscono i turni e la gente torna verso le proprie case. Ok. Ma quindi c'è, diciamo che noi pensiamo che uno di quelli che lavora all'interno possa essere lo sgualcitore. Voi dovete indagare su questa cosa. Ok, ma le prove, oltre alle... E niente, dobbiamo indagare noi. Ma c'è stato qualche rilevamento, a parte le giacche sgualcite. È stato rilevato qualcosa? Dovete fare domande e minchiate. Cioè, loro hanno denunciato le giacche sgualcite. Voi siete i primi che arrivate. E Rose, se sei d'accordo, io chiederei a qualcuno di indicarci il responsabile della fabbrica. Hai avuto una bellissima idea. No, guarda, è un'idea di merda, però ti ringrazio lo stesso per averlo detto. No, non l'apprezzo tantissimo questa idea. Io sì, sono d'accordissimo. Troppo gentile. Poi sentiamo anche dall'altro capo. Se... Sì, è giusto sentire da tutti. Ora che torna. Comunque vorrei far notare che è andato a pagare il parcheggio della propria automobile il nostro capo. Vabbè, quindi ci ha tradito, quindi allora ci ha dato l'equipaggiamento. L'hai sentito l'equipaggiamento? Puoi giocare. quella era rimasta la cintura di Fibra. Ok, è una pistola, è giusto, c'è. Esatto. E poi c'è la fotografica con la posizione. Chiudo qua. Sì, il telefono ce l'avevo. Con, ti ha dato la mappa dove è lo stabilimento, è solo 2 ore a piedi, quindi ovviamente decidiamo di andare a piedi. Che poi chi vuole è liberissimo di andare con me. Puoi andare con altri, può andare con lui, può andare io altro. No, no, no, grazie Vega, ma io ando a piedi. Ci vediamo lì. Ci beh, vediamo. Magari facciamo la strada insieme, no? Se ti va, Ci mettiamo un paio d'ore, arriviamo, che sono tipo le 6:30, la gente sta uscendo perché sta finendo il turno di lavoro. E lui ha avuto una bellissima idea di provare a chiedere in giro chi è il responsabile. L'abbiamo avuta tutti questa idea. E giustamente l'ha proposta a uno dei due leader, lei. Però sua, esatto, dobbiamo sentire tutti. La sua idea è stata tutti. Bellissima, però mi sembrava giusto chiedere anche a te. No, beh, bellissima. Sicuramente sei più degno di me di decidere. Io non l'avrei mai avuta. Rose è gentilissima come il suo solito. Dopo 10 minuti che l'ho conosciuta. è gentilissima come al solito, però in realtà è giusto anche tu dica la tua, penso. Io ti darei il mio role da leader, però... Adesso sei tu, te lo sei guadagnato. Hai lavorato per guadagnartelo ed è giusto che tu abbia questa posizione. La gente passa le giornate a parlare così, cioè, tipo un'ora per non dirsi niente. Però non c'è mai una discussione. Però no, è vero. C'è proprio una stasi totale di discussione. Alla fine ti usciremo di qua, dicendo dobbiamo creare questo mondo. Però se una guerra in atto! Se esistesse qualcosa assolutamente orribile, ma se esistessero i social network, sarebbe l'unico modo in cui lui potrebbe litigare, perché effettivamente a volte le discussioni sono partite sui social. No, ma tu devi, cioè, un conto è Yakbot, un conto è tipo noi, capito? Cioè, lui ce l'ha ovviamente, cioè, tipo lui toglie dagli amici, tipo noi tutti abbiamo un social network probabilmente dove siamo amici di Yakbot. Solo di gente, quanto avremmo amicizia in comune? Togliere dagli amici è un eufemismo per... eliminate. E ovviamente i social network non esistono in questo mondo, sono proibiti. Ma gli altri usano veramente. C'è Facebook, no, infatti secondo me c'è un social network dove bene, tu sia... raga, limitatevi al gioco il più possibile e poco fuori dal gioco, così è più semplice. A livello pratico, quindi chiediamo a qualcuno se ci dice chi è responsabile. Diciamo a livello di gioco, chiediamo a qualcuno se ci indica. Okay. Sei già sul chiedere? Sì, la gente sta uscendo. Come? Chi va a chiedere? Beh, ovviamente i leader. Io penso che sia più adatte i leader, sicuramente, perché. No, anche se tra i leader, io credo che la più adatta sia tu, perché sei una bomba. Sicuramente con te sono più gentili. Quanti episodi volevamo fare di questo gioco? Non 12? Intanto è corta la cosa. Sono i due meno carismatici del gruppo. Dai, io sono un cesso, se entro li guardo. No, tu sei un bellissimo ragazzo. No. Io posso permettermi solamente... Guarda me, piuttosto. I due leader sono quello col carisma. Ok, allora, chi di voi si avvicina? Non so chi. Al primo tizio che arriva. Chi è che si avvicina? In gruppo, direi. Ok. Andiamo io e l'Ambra vicini, dai. Lui vi guarda, vede la divisa e subito comincia a riempirsi di ansie. Fa... Sì, salve. Come va? Sto bene. La solita merda, grazie. E lei? Solita merda, grazie. Il vestito? Grazie, ma rispetto al suo... Non è neanche paragonabile. E come posso aiutarla? Comunque questo vestito è bellissimo. È bello il posto in cui lavori. Bello, c'è un'ora in questo lavoro. Ci metti avanti un quarto d'ora così. Beh, il posto, diciamo che è bello. I prodotti sono bellissimi e io sono diciamo contento di lavorare per questa nobile causa, anche se in realtà è un una merda. Ah, ecco, ok. Anch'io una merda. Posso fare una domanda se non le crea troppo fastidio? Sì, sì, sì, sì, mi dica pure. una cosa, voi comunque siete, tra virgolette, superiori, nel senso, siete autorizzati a fare pressione, a fare domande, perché comunque siete poliziotti. Sempre nell'etica. Sempre, però, esatto, con estrema educazione. Posso spararti? Posso spararti? Oh, mi dispiace, però, sono mortificato. Ho saputo che... È tipo, sono mortificato. Devi usarlo. Devi usarlo, ma puoi dirlo anche agli altri. Se, cioè, se gli altri interpretano decentemente, dovrebbero farcela. A far cosa? Ah, cioè, ce la faccio, cioè, anche in off, diciamo, posso usarlo. Tu puoi usarlo, però ti assumi la responsabilità che se va a culo, va a culo. Ma devo fare qualcosa di particolare? Se o è... devi fare un tiro, devi dirmelo e fare un tiro di power. Ok. Allora io vorrei cercare di capire perché è così nervoso. Non potere, se sì, ha qualcosa di non riuscirò mai a usarlo io. Ok, tira power. Quanto hai in power? Detto. La difficoltà è... Se è facile, 2 per 3, 6. Allora, col dado... No, ho fatto no, no, no, 18. 3 comunque. E quanto hai in power? Modificatore 3. Ah no, è 2. Quindi hai fallitissimo. Ah. Ma scusa, come funziona il power? È come gli altri tiri. Come gli altri, cioè come stava dicendo adesso. 22. Ma quindi scusa, lei però non ha un modificatore al power. No, non è, sì. Non guardi il modificatore, devi fare meno di questo. Ah. No, devi sì, guardare. Però per esempio il suo tiro che ha fatto adesso è facile, quindi comunque la difficoltà, se lei ha 3, è 9. Se lei doveva fare meno di 9. No, che tipo show ha 2 in power, come hai fatto ad avere 2? Allora, io ho 11 in power e il modificatore sarebbe 3, quindi se il modificatore è 3 e la prova è facile, la difficoltà è 9. Ah, ok. Quindi tu devi fare meno di 9. Okay. Avendo fatto... Ho dovuto cambiare power in un attimo, vabbè. Okay. Ok, quindi cosa fai esattamente? Cerchi di capire perché è ansioso? Sì. Quello che sentite tutti voi nella vostra testa è: chissà perché è ansioso. Cosa è stato, ragazzi? Cosa vuol dire? Riconosciamo, cosa la successo? Voce. Riconosciamo la voce? No, è un pensiero. Cos'è successo? Ah, cosa vuol dire? Non capisco. Diciamo non capisco. Non, pensiero, non capisco. Non capisco. Non capisco. Ma cosa voleva dire? Ma tu l'hai sentito? Cosa voleva dire? Cosa voleva dire? Ma scusa. Ma se io lo sente dentro. Abbiamo saputo che sono state sgualcite delle giacche. È una tragedia. Ho quasi pianto. Fatto gravissimo. Ti può permettere di fare una cosa del genere? Un traditore lurido. Non so, è un traditore. Io spero che sia preso dalle autorità. Hai detto? Spero che sia preso dalle autorità. È un traditore. Hai delle informazioni che possono, le autorità possono esserci d'aiuto in questo, che sono per trovarlo? Io non ho idea di questo. Non so niente. Io, però te lo chiedevo. Forse, mi sembra... forse potresti parlare col responsabile. Allora ha preso la voce di Jack anche lui. Saresti sì. Oh, sì. Non è facile. Mi tolgo un clone. Saresti così gentile da indicarcelo. Io non sono nessuno. Ah, e guarda, io non saprei come aiutarti. Aspetta, Però no. Cioè, ti voglio aiutare, ma non saprei proprio da come cominciare. Aspetta un attimo. Vedi che ferma un tizio e gli fa: scusami, e sai dov'è il responsabile? E lui gli fa, lo guarda e dice: io non saprei come e vedi che continuano a far così per tipo una decina di persone, finché casualmente c'è una decina di persone intorno a te che sta continuando a chiedere come sono bravi loro questo lavoro, finché casualmente comunque tutti gentili un gruppo di persone, io non so, no, sono tutti comunque in questa fabbrica sono tutte delle persone squisite, finché casualmente non c'è uno che dice: ah, non saprei proprio come aiutarti, posso provare a chiedere se vuoi. Si volta, fa la stessa domanda e lui dice: sì, io sono il responsabile. E si avvicina verso di voi. Cioè, nessuno lo sapeva che era lui. Buongiorno. Come sì, va? Lo sapeva, ma non sapeva come aiutare a trovarlo. Ma cosa? Ma cosa? Buongiorno, come va? Salve. Oggi non fa. E... la solita merda, la solita grazie. Merda. Però... no, va bene, va bene. Non fa, è solo un modo di dire. Cerca un po' più. Posso aiutarla, gente? Ah, cioè, in realtà sono qua io per aiutarla, però. Se. Aspettate una domanda, Rosy. No, dai. Ho già parlato io prima, non vorrei. No, io vorrei chiederle se non è di troppo disturbo, se avesse delle informazioni circa quello che è successo riguardo allo sguarcimento, che viene da piangere, si può dirlo, delle giacche. Ah, guardi, è una tragedia, io non so quanti. Una disgrazia. Non so, mi sa che perderò la fabbrica per una cosa del genere. No, non dica così, non dica così. Non è che le avessero un... cioè, sicuramente lei sarà in grado di rimettersi su e rimettere in piedi questo business importantissimo. È onorevole perdere la fabbrica. No, ma sicuramente non succederà. Io ho provato anche a chiedere se è possibile stirarle, ma credo che la maggior parte siano ormai irrecuperabili. No, che tragedia. E però guardi, la fabbrica è a sua disposizione, se vuole chiedere io gli farei fare domande direttamente al responsabile di quel settore. Gentilissimo. Guardi, vedo che sta uscendo, è quello laggiù, e vi indica un uomo abbastanza grosso. Come? No, pensavo un'altra scenetta per trovare l'altro responsabile. Mi aspettavo altri 10 una volta per fare la gag. E vi indica quest'uomo abbastanza palestrato, sì, che sta uscendo adesso dalla fabbrica, pelato e sudato, completamente sudato, ma vestito molto bene, in giacca e cravatta. E quando vede che viene indicato fa tipo così e si avvicina preoccupato. Io e si avvicina preoccupato e salve, avete bisogno di qualcosa? Volevamo sapere se gentilmente, ovviamente sono lei di troppo disturbo, oltre al fatto che veramente ha un bellissimo completo, è vestito benissimo. Pesatissimo. Complimenti. Poi si vede che si impegna nel lavoro che fa. Si vede anche che fa palestra, quindi congratulazioni, sì, per esatto. Il fisico. Ah, grazie, ma non credo di meritare congratulazioni. No, invece... Bel taglio. È pelato. Direbbe. Adesso va tantissimo. Anche a me piace. E anche io ci stavo pensando. E volevamo sapere se avesse delle informazioni, se ovviamente non le richiamo troppo di stupo domandando, riguardo alla tragedia che è successa in questo stabilimento. Guardi, io non so niente, ma posso guidarvi per un'ispezione all'interno. Voi cosa ne pensate? Può, può guidarci per l'ispezione? Sì. Ah, guardi, no, cioè non vorremmo approfittare, però sarebbe veramente gentile. Sì, sarebbe gentile. Posso fare un attimo una pausa pubblicitaria di un minuto esatto? Dipende che cos'è la pubblicità. Bella Arci, ascolta, ho visto adesso facendo una somma di persone che non ti ho messo nel messaggio e anche come altri mi sono scordato, ti aggiungo immediatamente. Domani sera io facevo una cena fuori, probabilmente l'avrei saputo anche perché sono invitati tutti, quindi ma non so perché mi sono scordato purtroppo di 4-5 persone che in questi giorni ho aggiunto in corso d'opera. Mi dispiace molto, Arci, se ci sei, se ti va di venire, sono alla Osteria dei Grifoni. Niente, molto di ignoranza per i fatti nostri, sì. Si stava un po' lì e si suonava e poi ce lo si buttava in culo, ovvio. Insomma, come ovvio. E, e, se riesci ad esserci, mi fa molto piacere, Pollage. Se no, mi rendo conto che dicendolo tardi, tra l'altro, avrei sicuramente altro da fare. Fammi sapere. Comunque ti aggiungo al messaggio direttamente su Facebook. Ciao. Ciao, bello. Ti ha detto il maestro? Tutto il lema che c'è in Ema in questo messaggio. Ok. Quindi vi scorta all'interno, verso un magazzino. E intanto vi fa vedere che... Allora, vi dice che quello è il magazzino dove erano tenute le giacche. Vedete, entrando, che è una roba abbastanza complessa, perché ha una sorta di cavò. E all'interno vedete che percepite subito che la stanza è deumidificata ad hoc e tutte le condizioni sono controllate, non c'è luce che può entrare nella stanza, e vedete un sacco di vestiti tutti belli in fila, impilati. E quindi questo era il deposito, e come vedete la sicurezza non è niente di che per un carico del genere, ma speravamo di non aver problemi. E fuori c'è un custode, però il custode non sa niente perché è successo di notte, e di notte il custode non piantona qua, ma piantona all'esterno. L'unica cosa, non so se posso dirvelo, vabbè, no, fa niente, no, sono cose di cui non ho esperienza, e quindi volete che vi dica, che vi illustri qualcos'altro all'interno, se no fate pure... No, come se fosse a casa vostra. Dici pure questa cosa che volevi dirci. Cioè, io sono sicuro che lei è sicuramente più che capace. No, preferisco non entrare in queste cose. Guardi, se non ce lo vuole dire, cioè, noi non vorremmo assolutamente disturbarla. Però sicuramente se sarebbe, cioè, saremmo veramente super gratis se lo facesse, se saremmo veramente riconoscenti. Puoi fare un tiro di abilità, o chi vuole provarci. Su cosa? Cosa vuoi dire? Se vuoi interrogare, intimidirlo? No, voglio... Diplomazia, sarebbe. C'è interrogation. No, è quello. Forse oratori, però... C'è bootlicking, bootlicking. Sì, assolutamente. Intanto prova a farlo io sul potere. Ok, tira il potere. Difficoltà è 9, sempre. 18 di nuovo. 16. Ma 16. Sì, ma è un'altra cosa, è il suo di difficoltà, perché... Sì, ma questo che è scritto tra parentesi. Cos'è quello tra parentesi? Non c'è un modificatore, va molto. Non c'è il modificatore per il power. No, l'ha detto prima. No. Vabbè, 11, però 16. Vabbè, allora, vabbè, io provo a fargli... Io provo a fargli il bootlicking dicendogli che, secondo me... No, raddoppio. Vedete che Rose sta fissando il tizio. A un certo punto vedete... Cosa sta dicendo? Per il power c'è sempre il modificatore. No, c'è il modificatore. Cioè, prima tu hai detto, per i vari punteggi che avete tirato, c'è un modificatore associato, un numero associato. Non c'è associato. La skill così non corrispondente? No, però c'è lo stesso. Cioè, quindi Ambra, che come punteggio ha 11, in realtà deve contare il 9 come difficoltà. Sì, era difficile. Se la prova è facile... È facile, 3x3. Esatto. 3x3 è 9, e quindi okay. La difficoltà è 9. 3 perché da l'11 quindi c'è il modificatore, quindi c'è un modificatore di power, anche se non c'è scritto, quello non sì, ma io avessi avevamo capito che per power non c'era il modificatore. Per quello c'eravamo incartati. Vabbè, io ho fatto 2, vabbè. Quello che volevo dire è che vedete che Rose fissa il tizio, a un certo punto le esce un rivolino di sangue dal naso e sviene. Chiamato il dottore. Tutto bene? Come si chiama il dottore? Ah, io non saprei cosa fare. Possiamo sprocare uno squillo, fate uno squillo. poco dopo, si, cioè dopo qualche secondo si sta già riprendendo. No, Paolo, questo non ci voleva. Nata puttane. Vita di merda. Che vita di merda, sono inutili. Fatto che adesso abbiamo una pistola. Si è ripresa. Dopo qualche secondo si riprende un po' scosso. Era una pistola. Non riesco a aiutarla. Boh. Il numero di suicidi oggi è calato a 200 milioni. Non ti porti con gli acqua. No, vabbè, allora io ovviamente sono rinvenuta, quindi adesso. Ma ti senti bene, Rose? No, cioè, solito... la solita merda, però cioè, mi dispiace solo che veramente vi ho fatto preoccupare così tanto per me. Ma stai scherzando, Rose? Cioè, anzi, è molto onorevole. Sì, vabbè, non è che siete degli idioti, eh. È molto onorevole. Forse no. Vabbè, tutti ovviamente penso che ci sinceriamo delle condizioni di Rose per tipo 10-15 minuti e spero anche il tizio che sia lì, immagino, o no? Ho capito cosa? Noi ovviamente ci sinceriamo, non riesco a parlare oggi, delle condizioni di Rose per il tempo adeguato, cioè 5, 10, 30 anni, minuti, e il tizio intanto rimane lì. Il tizio lo guarda un po' preoccupato. La cosa importante è che non si è sporcato i vestiti col sangue. No. Ah, esatto. E guardiamo anche, per fortuna che non si è, anche la sua giacca di Armani non si è sgualcita. Però se è svenuta e caduta, quindi la giacca si è sgualcita comunque. Comunque, no, a questo punto torno a rivolgermi al tizio e gli dico, comunque, lei sarebbe, secondo me, molto gentile se ci potesse dire... Sì, queste... è tutto a posto, la vostra collega sta bene? Sì, adesso sto bene, gentilissimo a chiedere, sto benissimo... Mi spiace solo avervi fatto perdere tempo anche a lei che comunque sta facendo. Ma magari è meglio se va all'ospedale, cioè nel senso, magari è qualcosa di grave. Non beccherei mai un disturbo tale, no. Se vuoi veniamo con te, Rose. Che questo è classico. Questa era quasi telecomandata. Se vuoi veniamo con te, Rose, perché tipo anche quando Jack era andato con Lord... quando si era storto la caviglia, calcetto, era andato con lui l'anno scorso. Sì. Non si è aperto molto. Più tardi. E... Okay. No, allora chiedo al tizio... Che abilità tiri, Vez? Volevo usare il bootlicking dicendogli che lui, secondo me, è mi sembra molto, molto capace nel suo lavoro, okay. E sicuramente è in grado di... La difficoltà è per due, e se hai un background che può giustificare... Bootlicking. Allora, credo che nel bootlicking siamo bravissimi tutti in realtà. Sì, no, più del normale. E diciamo che come segretario dovevo, a volte ogni tanto i miei capi dovevano disdire degli appuntamenti. E quindi in questo caso io facevo a chi dovevo comunicarlo. Facevo applauso comunque della sua capacità di accettare questo e lo ringraziavo, eccetera, e cercavo, diciamo, mi proponavo più o meno ai piedi. Va bene, hai un per tre. Per tre, ok. E il ciuzpa, giusto? Che ho sì. 4. Okay. Quindi 4 per 3, 12, devo far meno di 12. Esatto. Pareggio? Ho fatto 3. Ok. Vedi che lui... Anche se pensa di essere una merda in fuori, dà qualche segno di, insomma, di sentirsi super, super plagiato. E dice, vabbè, dai, però sono solo voci, io non sono sicuro di questa cosa. ho sentito dire che c'è qualcosa che non va alla mensa. Allora dovete sapere che questo stabilimento... La mensa è delicata, ecco la situazione. Dovete sapere che questo stabilimento possiede una mensa perché è obbligatorio per legge. E in più, di solito, gli operai decidono di fare pausa invece che farla in mensa, perché, come ben sa anche lei, è una cosa abbastanza costosa, e di utilizzare gli innumerevoli distributori. Quindi abbiamo deciso di montare distributori di scatolette in tutta l'area relax. Beh, questo direi che è nobile da parte sua. Però ho sentito dire che la mensa, anche se penso sia vuota, non oso immaginare qualcuno che possa permettersi di mangiare lì, e si dice che ci sia qualcosa che non va. Beh, sì, in effetti solo un petroliere potrebbe permetterselo, però fortunatamente la nostra società dovrebbe esserne libera. Sì, sì, però infatti noi l'abbiamo messa. Ah beh, giusto, avete fatto il vostro dovere al meglio delle vostre possibilità, quindi... E non è voglio fare il proprio dovere. Vabbè, la ringrazio infinitamente per avercelo detto. Grazie a voi per esservi interessati. Ma guardi, io la ringrazio per averci ringraziato. No, però è il nostro dovere. Noi sì, cerchiamo di fare il nostro dovere con le poche, cioè io personalmente con la poca capacità che ho. Fortunatamente ho dei grandissimi compagni che mi danno la possibilità di svolgere al meglio questo lavoro, per quanto le mie possibilità me lo può permettere molto poco. E quindi la ringrazio di nuovo infinitamente e faccio ancora le congratulazioni per un ottimo lavoro, e questo è davvero un lavoro veramente importante per la società. Grazie. Grazie, e bello. Ha bisogno di qualcos'altro? Magari se vuole le indico dov'è la mensa. Ah, sarebbe estremamente gentile, perché io in effetti non saprei proprio come arrivarci. Ah, guardi, neanch'io saprei come arrivarci, ma ho sentito dire che dovrebbe essere l'edificio qua a fianco, sulla destra. Ah, non guardi, sono mai stato, però. Intanto la ringrazio tantissimo per l'informazione. E seconda cosa, dov'è esattamente questo edificio qua a fianco? Come sai che sono edificio? penso che... non lo so, però penso potremmo scoprirlo insieme. E vedi che intanto si avvia verso l'uscita. Ah, grazie mille. Ma quindi la dobbiamo seguire, ragazzi, avete capito? Non lo so. Come si fa a arrivare nell'edificio sulla destra? Non è stato molto chiaro, però... Ma dobbiamo seguirlo. No. Rose... I'm. Non... Cosa facciamo? Non lo so, ragazzi, io mi sparerei, però... No, I'm, non dire così. In realtà queste cose qua, secondo me, voi non le dite... perché ci crede davvero, ma diventa più tipo... Sono i convenevoli. Esatto, convenevoli. Sono i convenevoli, ovvio. Esatto. Dice buongiorno. Cioè, ok, dipende, po', merda, dipende un po' dal nostro background. Diciamo, le persone normali all'interno della Yakasilum lo fanno, cioè ormai sono talmente plagiate che è tipo l'automazione. Però. Esatto, sì. È tipo, ciao, come va? Ciao, poi, voglio spararmi. Sì, ciao, come va? Durante 3 secondi, tutte le nostre cose sono mezz'ora di... rimbalzi, bravo. Ma aspetta, lui si dirige fuori, ma alla nostra destra c'è un edificio. No, ha detto che lo possiamo, cioè, possiamo scoprirlo insieme. Ah, quindi e poi noi siamo rimasti tipo lì senza capire cosa fare. Beh, seguiamo. Lo seguiamo. Ah, va bene, se tu dici che lo dobbiamo seguire, seguiamolo, certo. Però mi conferma. Beh, ci sta. Con me, secondo me ci sta. Secondo me ci sta. Secondo me ci sta. Questa cosa. Secondo me ci sta. Secondo me ci sta. È onorevole. Sì. Ok, mentre state uscendo, vedete una telecamerina che si avvicina. Allora procede tutto bene. Grazie, Jack. Grazie per averci. Solita merda. Però grazie per avercelo detto. Perché ho sentito dire che qualcuno di voi ha presentato dei sintomi imprevisti e mi piacerebbe saperne di più, che non sia niente di grave. E magari indagate anche su quello, spero che non sia niente. Buon lavoro. E speriamo. Grazie, Jakob. Grazie, viva Jakob. Grazie infinite. Ok, uscite. E vedete che il tizio sta andando proprio sulla destra e c'è un altro palazzino più piccolo. Sì. E si ferma davanti alla porta. C'è scritto qualcosa, sala tipo mensa. Una Barbie. C'è scritto mensa, sì. Scritto da Barbie, morte. Ragazzi, secondo voi la mensa è quella? No, non lo so. Scritto mensa, ma sopra. Sì. Quindi qui ci entrano solo quelli con quoziente intermedio sopra la media. Cosa vuoi dire? Io non lo so, ma... io non credo che c'entra gente con quoziente intermedio. Io qua non verrei mai, però è... forse il pro. Trovo assolutamente giusto che ci sia questo posto. Io tolgo la sicura dalla pistola, forse vuoi fare lo stesso. Sì. Come no, ti chiami? Raga, io in mensa non posso entrare. Come ti chiami? Sento dell'odore che non mi piace. Come Quinn, giusto? Steve. In mensa non c'entro. E il signor Steve Mac ha assolutamente ragione. E non sappiamo cosa possa esserci in questo luogo. Potrebbero perfino esserci dei nababbi. Quindi io sarei prudente, come giustamente e praticamente sta la perfettamente. Tutti noi ci facciamo degli Jacopo. Però non dovremmo fare così. Ma secondo me, infatti, no. Cioè, ci sono alcune cose che sono un po' consuetudini. No, se c'è una mensa, il discorso è... Sì, no, ma infatti entriamo, ma anche prima, infatti lo seguiamo, però tipo... Nel senso, quando avete chiesto informazioni al tipo, no, al primo tipo di dire dove fosse il capo, non è che lui ha agito così perché è un incoglionito, ha agito così perché in teoria si dovrebbe agire così, cioè non sentendosi uno che sa bene le cose perfettamente, ma chiedendo agli altri, esatto. si deve far vedere che non sa queste cose. Certo, vabbè, ma anche qui in questo caso, tipo, lui dà una sua opinione, cioè sono d'accordo con lui, però per dire che sono d'accordo con lui, lo devo tipo lisciare per tipo tre ore. Infatti ognuno di voi ha i vostri pensieri, le vostre, diciamo, società segrete, i vostri poteri, eccetera. Quello che però dite è un'altra cosa. Certo, però beh, sì, è ovvio che noi okay. siamo... Ok, avvicinatovi alla mensa, mi fate tutti un tiro su ascoltare, su Moxie. Moxie. Oh, brutto! La difficoltà è per 2. Oh! 8! Quanto hai, Arci? Più 4. Io sto tirando adesso. Porca. Faccio esattamente 8, va bene, no? Sì. Vai, sì. Faccio anch'io. Faccio no, uguale. Mi sa che non passo. È 8. 8, sì. Quindi chi ha passato? Sono Ambro. No, cazzo, è un bell'8 qua. Ah, il pareggio vale. Allora Ambro, i leader. Voi due sentite un rumore all'interno della mensa, tipo una pentola che cade. Non tiro mai così. Mai. Ragazzi, ho sentito il rumore di una pentola che cade all'interno della mensa. Vedi che il tizio ti guarda e dice: no, non è possibile, non dovrebbe esserci nessuno a quest'ora. Irrompiamo. Ah, allora forse come dice lui, Forse... probabilmente ha ragione lui, ma io l'ho sentito, mi sembra... Io sono... sbaglio, mi sparo. No, però hai fatto bene a dirlo. Cioè, se tu l'hai sentito, io mi fido. Grazie che tu non l'hai sentito, il tizio della mensa. Sei tu che sei il nostro leader, l'elite. No, secondo... io ho sentito un rumore, ma non sono certa. Allora il rumore è più giusto del mio. Allora se l'ha detto... No, beh, se l'ha detto anche lei, sicuramente è così. Il suo rumore è giusto. Quindi no, noi andremo a controllare. Solo perché lui l'ha già detto, e quindi se lui l'ha sentito, deve essere vero per... Io, visto che voi avete avuto questa rivelazione, questa la vostra capacità straordinaria, direi di andare a controllare. Però voglio sottolineare che è onorevole anche non sentire. Beh, io sono abbastanza inutile in questo caso, però vabbè. Direi che chi ha un addestramento militare deve fendersi dentro e prendere subito. Ci sta. Rose. Ti senti? Rose. Non mi sento degna, ma se voi pensate tutti, se sei degna di entrare. La porta è chiusa a chiave. Chi ha la chiave? Oddio, ragazzi. È chiusa a chiave. Chiedo al tipo se è la chiave. Sì. Non so, io non sapevo, non sono mai stato in mensa. Si figuri, io non sono. C'è una... Cazzo! Praticamente lo Jacob vieta praticamente di andare in mensa, sì. Di fatto. Però per legge ha messo obbligatoriamente la mensa. Sì. È una cosa geniale. Cioè... Geniale se non parlo di un bugiardato. Io geniale non lo definirei. Ma perché la mensa è a pagamento comunque. Sì, cioè nel senso è una parte dello stipendio. Se fai, puoi richiedere. Uno che... come fa a mangiare normalmente? Questo che non capisco. No, nel senso, cara. Lui te l'ha detto, lui ti ha detto, hanno fatto, visto che nessuno ci andava, hanno messo del distributore di scatolette nell'area comune. Ok, sì, quello lì si può usare perché alla fine costa poco. Esattamente. Direi ok, che, diciamo, ci sta, grande. Dobbiamo obbedire agli ordini di Jacopo e compiere la missione che ci ha affidato, anche se non ce lo meritiamo. È delirante sta cosa. Ci sta, grande. Io direi che posso provare, se voi pensate che sia una cosa giusta, a sfondare la porta. Io provo a usare il mio potere. Per me non rimasto la porta. E io sono da... Cioè, penso che le vostre siano tutte eccellenti idee. Ah, ok. Va bene, tirami il potere. Io ho il mio punteggio di power è 2, quindi penso che non funzionerà mai. Cosa prova a fare? Ah, il power non lo so. fai 2x3. E prega. Ho fatto 5 con dado, sì! Dai, ma questa cosa è ingiusta. Quindi mi wappi o me lo dici? No. Allora, vedete che Adam guarda la porta e rimane a bocca aperta. All'interno, Sheo, tu vedi... È una bellissima porta. ...che la mensa sembra usata, nel senso sembra aperta, e c'è un tizio che cucina all'interno. Ma da solo? Da solo. Non riesce a vedere la porta? Però per te è abbastanza incredibile questa cosa. Cioè, noi sappiamo che la mensa dovrebbe essere vuota, che non vita, c'è nessuno, la porta è chiusa, però c'è uno dentro che sta cucinando. Esatto. Riesco a vedere cosa sta cucinando. E da lontano, però, ti sembra che sta facendo bollire l'acqua. Cosa? Vabbè, però... È per quello che rimane a bocca aperta, hai capito? Tutto a posto, Adam. Okay. Adam. Sì, scusate, che fa un po' paura il fatto che ci sia sentito, che loro i nostri leader abbiano... Tutto a posto, sì? Adam, tutto a posto. La solita merda, solo mi fa... per un momento come molto hai detto, paura. Scusa, Adam. Sono un po' spaventato dal fatto che i nostri leader abbiano sentito un rumore sospetto. Mi dovresti fare un tiro di... dove cazzo sta? A tutti? No, tu Sheo. Ah. Un tiro di puoi scegliere o no, tu lo motivi dicendo che sei un po' sotto sopra per questa cosa qua, quindi il tiro è di logica. Di logica inteso spurious logic. Chutzpa. Per convincere gli altri che non nascondi niente. Vai. Difficoltà. La difficoltà è per 2. Non lo passo. Ho fatto 19 col dado. Mai tirato così alto. Vedete tutti che lui suda copiosamente. Quindi pensiamo che non ci stia dicendo la verità. Cioè, lui sembra molto agitato. È molto agitato. Stai sentendo male? No, sono solo spaventato. Vedete che esce la testina di Yakbo. Allora è tutto a posto. Io non ho capito cosa stia succedendo in questo momento. Non lo so. Perché il vostro agente sta così male? Perché non ho capito se ha fallito o ha avuto successo. Ha fallito, quindi tipo pensiamo che sia qualcosa di strano. Perché sono molto agitato. E stai tipo super agitato. Perché è la prima missione e onestamente sono agitato. Però sa la cosa, noi qua dobbiamo agire nel senso. Come vuole uno, a tua scelta, il tuo personaggio. Però potremmo... il nostro lavoro è di trovare i traditori. È come dire, non so, siete due poliziotti, arrivate davanti a un capannone e vedete lui che che guarda dentro e comincia a sudare. Fa, perché è la mia prima missione, sono preoccupato. Ma sono vent'anni! Puoi dire è possibile, come puoi dire sta inventando una fregnaccia per qualcosa. Sì, ma se adesso, quello che voglio dire io, se adesso io dico, perché fai così e comincio a indagare? Non è che poi non sembro di Yak perché non lo ringrazio, non dico, è onorevole sudare. No, no, tu puoi indagare. Il tuo lavoro è indagare. Il lavoro è indagare sui eventuali tradimenti. Tu devi indagare, però ovviamente ti rimani con un atteggiamento tipo fake, gentile. Quindi tipo gli puoi dire tipo, mi dispiace un casino che stai sudando, però forse c'è qualcos'altro che mi vuoi dire. Quindi la fallita, noi vediamo che tu stiamo chiamando qualcosa. Mi vedete più che molto agitato. No, più che altro adesso è arrivato Yakbot e sta dicendo cosa succede. Ragazzi, sta disturbando troppo il magnifico signore splendido. Scusate, ora cerco di calmarmi. Perché sudi, Ada? Guarda che se hai visto qualcosa di qualche tradimento è tuo dovere dirmelo. No, no, assolutamente sì, no. Adam, non avere paura. Qualcuno che cucina nella mensa sicuramente c'è qualcuno che sta... Come sei visto? La porta è chiusa. Hai visto qualcuno che sta cucinando nella mensa? Come hai fatto? No. Ma Adam, hai appena detto... Oh, ragazzi, abbiamo sentito una pentola cadere, loro. Quindi se c'è qualcuno dentro la mensa che eventualmente sta cucinando, sta muovendo le pentole, ci sarà qualcuno che mangia. Questo non si fa. Ecco perché mi ha... Questo a me puzza un po' di tradimento. Come hai fatto a sapere che qualcuno sta cucinando dentro? Lui ha detto che è caduto una pentola. Sento odore di bollito. Io ho sentito un po' come Rosa, ma non so se uno stesse cucinando o stesse... Beh, o se fosse caduto a pentola. Tu eri sicuro ragazzi, che qualcuno... Ragazzi, sono troppo strano in questo momento, cioè... Tu perché hai aperto la bocca? Gente che sente porta? Suoni, gente perché che vede cose, io non capisco. Sì, io volevo aprire la bocca, però... Sono agitato. Cioè, magari poteva essere anche solo il rumore di un topo, visto che la mensa... Sì, secondo me, per spararsi in bocca. Secondo me è sospetto. Io non vorrei che ora voi apriste la porta e vedeste esattamente che uno sta cucinando. Sarebbe davvero molto sospetto. Ha ragione, come apriamo la porta però? Ha ragione. Ah, fate tutto ciò che è necessario. Ma ricordate che se dentro qualcuno sta cucinando, sì, ha ragione tu. Forse è meglio giudicare il vostro agente. D'accordo. In effetti sarebbe un po' strano. Sparo la serratura. Per piacere, a sfondarla, no? Magari le maniere, magari sì, per piacere. Mi sembra onorevole. Non, non, voglio, non voglio dire nulla su quel tutto operato. Grazie. Ah, guarda, è un piacere dal mio punto di vista. So di non essere degno, ma dovrebbe essere vuota. Comunque, però, cioè, effettivamente. Volete bussare? No, cioè, avrebbe senso bussare. No, bussare non ha senso perché dovrebbe essere completamente vuota e quindi noi dalla parte del giusto... Sarà vuota perché... Cioè, deve essere vuota, qualcuno può che cucina. Aspetta, chiedo al tizio se gentilmente mi può dire se c'è un'altra uscita da questo posto. È impossibile che le persone... Non che io sappia. Ah, ti ringrazio per la tua informazione precisissima, grazie. È utilissima. Cioè, ovviamente lo dico con questo, ok... ok, a questo punto pare che non ci sia, secondo il nostro gentilissimo amico, pare che non ci sia un'altra uscita, quindi io direi di spaccare, entrare, cioè, siamo mortificati, però purtroppo per il bene di Yakbot dobbiamo... Da lì però mi sento di dire una cosa, tira assolutamente le maniche perché gli stessi... Ah, hai fatto benissimo dirlo, grazie. Ma la mensa non... L'edificio della mensa non ha finestre. Sì, ha finestre, però sono per chiuse. Per essere dentro. Io però mi tolgo prima la giacca e la consegno a nessuno, se la può gentilmente tenere così non si sparcisce mentre provo a sfondare la porta. Non so se sicura che poi lo faccio io. Sì, mi fido. Come si chiama la giacca? Vabbè. Sì. Ma sono sicuro che tu sei più in grado di sfondi, provi a sfondare, quindi è un tiro di forza e se hai qualcosa di background che può giustificare il fatto che tu la sfondi, allora il modificatore è per 2. Beh, comunque essendo stata nell'esercito sono stata addestrata anche a compiere missioni di proprio salvataggi e cose simili. Va bene. Perciò mi è capitato più volte di in addestramento dover sfondare porte o ostacoli. Per 2. Quant'hai? Ho 18, quindi bonus 5. 10. Quindi 10. 50%. Vai. 15. Quindi sì. Allora, vedete che Rose con gargolazioni che Rose dà una spallata alla porta sembra resistere e fortunatamente per Adam sentite che dentro qualcuno, cioè sentite dentro un rumore come di una pentola che cade e altri rumori. Riprova presto. Sta scappando. Cazzo, cazzo, qua c'era davvero qualcuno che cucinava. Sì, ha fatto che tu mi dia la tua giacca. Pure no, magari no. Due insieme. Ma fatelo insieme di sfondare la porta, sarà più facile. Adam, no? Forse tu meglio che sta zitto. Ma se, se sparassimo invece la porta. Se parla insieme, Salla, per avere tipo un modo. Sparassimo la serratura. Ma scusate, non voglio interrompere, cioè per siete leader e avete assolutamente ragione su qualunque cosa, le vostre sono ottime idee, però se non sbaglio il buon vecchio Quinn aveva detto di magari sparare la serratura, poteva essere un'idea interessante. Cioè, no, io ho un colpo solo e lo tengo per la mia bocca. Vabbè, in due spalle. Al tuo tre andiamo. Non vorrei mai andare al mio. Tre ore dopo, infatti io stavo già pensando, se apre vede qualcuno che cucina è colpevole, ma ora che avete aperto la porta. Ottimo, vai, io dico 1 e 2, tu dici 3 allora. Ok, 1, 2, 3, 2 di dado, io 17 di dado. La porta si spalanca, dentro vedete che le luci sono accese. Congratulazioni. Congratulazioni a tutti. Perché sfondate la porta, entrate, ma non guardate niente, vi girate. Vediamo lì. In fondo alla stanza vedete che ci sono lunghi tavoloni e in fondo c'è una sorta di cucina. Vedete che c'è una pentola a terra con dell'acqua per terra rovesciata e un fornello acceso. Oh, a quanto pare i fornelli non si accendono da soli. Non credo che tu ci abbia visto qualcosa, ovviamente, però cazzo. Forza ragazzi, secondo me Rose può dire una cosa. Questo è l'unico ben pensante qui dentro, ragazzi. Acciuffiamo questo sgualciatore di giacche. E ascolta, noi non sappiamo che tu sei un ben ad alta voce dico questo. Ascolta, noi non sappiamo se sei un ben pensante o un nababbo lurido. Però è meglio se ti fai vedere, così possiamo parlare con calma e capire che cosa sta succedendo qua. Se no, purtroppo, anche se siamo molto mortificati, temo che saremo costretti a usare la forza. Vedete due mani che si alzano dietro al bancone. Come va? Non sparate. Come va? Come va? Come va? E non benissimo, grazie. Ah, non va la solita merda, eh? Non va la solita merda. Spari una spalla. Non va la solita merda. Davvero? Sì. Ok, tira per colpire. Minchia. La difficoltà è per 2. Non sei mortificato. La difficoltà è? Per 2. Per 2, quindi aspetta, per colpire... Dexterity. 8 devo fare, quindi. Emerge il power play. 4! Allora, lui è così, gli spara una spalla. Mi sono ricordato urbanino. Dove gli hai sparato? Su una spalla. Su una spalla. E vedete che lui accusa il colpo e fa, ah, no, ma io... No. Come va? Come va? Come va ora? È la solita merda, grazie. Anzi, un po' peggio. Bene. Vieni avanti molto lentamente per piacere. Ok, ma non sparate di nuovo. Io tranquillo, tranquillo. Un cuoco, non ho fatto niente. E si avvicina a voi si con può la spalla cuocere. Sanguinante. Ma che cosa? In che modo? Cosa stavi cucinando? Posso fargli le domande? Sì. Sì, niente, stavo solo preparando per domani. No, ma il fuoco acceso e l'acqua che bolliva. Sì, che io pensavo di... Di bollire? Cosa volevi bollire? Cosa volevi bollire, esattamente? No, non è un bollire qualcosa, era per prepararmi una tisana. Lo dici con una certa facilità questa parola, la usi spesso? Io non ho fatto niente, lo giuro, non mi sognerei mai di bollire una pietanza. E perché la porta era chiusa se non avevi nulla da nascondere? Per gentilezza non potresti rispondere. Beh, la mensa è chiusa. E allora cosa ti stai facendo qui dentro? Io stavo preparando per domani. Ma c'è una specie di percepire intenzioni, Sala. Sì. Più che altro farlo. Una pentola di acqua sul fuoco. Quanto per una tisana per domani, mi pare un po'. Sì. No, quello potrebbe essere. Psy scan. No. Sì. Allora lo uso. Hai qualcosa di background? Di background? Beh, un pochino sì. Da insegnante, quando mi dicevano io ho studiato, bravo, mi piace. Oh, per che non erano per tre sociarci è un fire. Sì, però ho uno. 18. Ti sembra una scusa abbastanza credibile? No, ma non è credibile, una pentola d'acqua e una tisana per domani non è credibile. Se non è molto credibile, per fare una tisana è tutto. Vabbè, detto domani, duro, detto, io posso dire. detto dall'uomo che a quanto pare l'ha visto da dietro la porta. Ma non l'ho visto, io come hai fatto a vedere che c'era un uomo cucinato? Non l'ho visto, ho detto. Perché avevi la bocca aperta se non per spararti? Per respirare. Ma quindi stavi cucinando, ci confermi? Io stavo cucinando, sì. Mi volto lentamente verso Adam. Ma Adam, quindi come facevi a sapere che lui cucinava? Abbiamo che esce, fa bzzz. Quindi avete scoperto qualcosa? Io sto puntando una pistola a Adam. Ma Adam, Adam, come va Adam? Adam è onorevole, te lo dire, però se lui dovrebbe pensarci, devi essere eliminato. Sono mortificato. Non era solo un'umile intenzione dopo il rumore di pentole. Beh, tu hai aperto la bocca guardando qua. L'ho visto, puoi riprovare a tirare. Su. Sei come prima. Quindi sempre. No, mi ricordo che l'ho tirato prima, sono sincero. È superior logic. Sempre... No, era sempre. Curious logic. Chutz pavage tirato. Sì. Era giusto, sempre. Okay. Quanto hai? 4 per 2 per 2, sì. Giocavo con i trenini, quindi non ho motivazioni. Però hai già mentito una volta. E ti dirò che non l'ho passato. 13. Quindi... Sentite la voce di Yakbot. E forse si tratta di un malfunzionamento di questo clone. Eliminatelo e verrà sostituito. Io prendo la pistola e mi sparo in bocca. No, non puoi. Puoi? C'è iniziativa, no? Non c'è iniziativa, in realtà. Allora io dico, sono mortificato. Bisogna vedere se lui riesce a farlo più velocemente di quanto noi lo riusciamo. Vabbè, potete anche farlo contemporaneamente. Sicuramente, perché io gli direi, sono mortificato, me... Adam. Sì, esatto. Secondo me ci sta che lui prenda la pistola, voi lo vediate e gli spariate. Ah, sì, dai. Gli sparo. Sì. La differenza è poca, sinceramente. Tirate per colpire. La difficoltà è per 3. Io faccio un agility. Cazzo. Dexterity. È per 4? Per 3. Quindi 4 per 3 fa sempre 12. Io ho fatto 14. Hanno fallito tutti. Ha fallito anch'io. Anch'io ho fallito. Vabbè, solo il fatto che sia bruciapelo non è. Sì, però è dovete farlo anche velocemente perché vi sta anche tirando fuori la pistola. Quindi. Devo tirare anche io? No, tu ti spari in bocca e muori. Ok, e avete fatto un ottimo lavoro, anche se avete mancato tutti. Però è comunque ottimo. Purtroppo mi dispiace, sono mortificato per aver sbagliato, Yakbot. Ma sarei stato comunque mortificato anche se l'avessi colpito. Il più presto possibile vi farò arrivare il sostituto. Una persona è un atteggiamento scorretto, perché tra dire... comunque onorevole, però disonorevole anche se rispetto la sua decisione. Rega, se mi fate parlare, forse scusi. Dicevo che il più velocemente possibile vi farò arrivare il sostituto e speriamo non sia difettoso tipo il precedente. Grazie infinite, Yakbot. Vedete la testina che fa bzzz e rientra dentro. Io rimarrò identico. Sì. Due. Esatto. È identico, ma non sa niente di quello prima, giusto? No, no, sa tutto quello che è successo a quello prima. Cioè, qui. Tipo un backup dei, dei pensieri. Esatto. Analisi. Analisi. E per voi okay. Invece sono pulito. Vedete che il tizio è visibilmente cagato sotto. E ascolta, può essere che... No, non credo. E tu sai qualcosa delle giacche sgualcite, magari? Io... Posso fare un'interrogation? Non fare sì, puoi farlo. Perché vabbè, muoio sempre. Mi sparo. E difficoltà? Porta male, per due. Per due. In realtà il meccanismo... Interrogation è ciuzpa. Niente, 15. Fallito. Io nella vita purtroppo sono così. Io non ho capito, beh, scusa, hai fatto tu perché c'era qualcuno che parlava. Ho provato a fare un interrogation su di lui, ma ho fallito. Io no, non so nulla, sono solo un cuoco. Mentre lo dice, entra Adam. Ciao Adam. Minchia, come va? Hai immediato come così. Va? Come va Adam? La solita merda. tipo, bene, bene. Bene, va. La solita merda, ragazzi. Risposta sbagliata. È bello rivederlo. Ma io cosa so del clone precedente? Tutto. Quindi so che era un traditore, cioè che è stato scoperto per questo motivo e che è stato ucciso. Sì. Però il suo obiettivo segreto che magari è, dai, rimani. È tutto, è identico, sì. È la stessa cosa. Quindi io in realtà potrei tipo è come scusarmi. Come se non fosse mai morto. Cioè io quindi tipo arrivo e mi scuso per il malfunzionamento del precedente, in teoria, è logico, assolutamente. No? Ci sta, cioè non è colpa tua, però ci sta. Ah, però se non l'hai portato. No, però so benissimo che loro hanno avuto un disagio per colpa del mio malfunzionamento precedente. Sì, sì, sì. Ok. Allora, scusate ragazzi. No, ma tra l'altro il tuo cadavere è lì in mezzo. Ah, giusto. Ma stai scherzando, Adam? Non, cioè, non è certo colpa tua. Cioè, o meglio. Beh, in realtà, e mi indico. È ovvio, è colpa mia, l'avete visto, scusate. No, no, ma... Cercherò di rimediare i suoi errori. Ma sono sicuro che ce la farai, Adam. Grazie. Ci proverò. E non sicuro, è perché non volevo denigrare gli altri, però dico, lo giuro. Visto che tu hai fatto il soldato, sicuramente conoscerai dei modi per interrogare senza fargli male questo signore. Cioè, sicuramente è onorevole anche torturarlo, però secondo me sono modi molto più civili. Ma tu sei che pensando che vedremo di persona Yak. È anche vero che se Rose ci dice che il modo migliore per ottenere informazioni in questo caso è torturarlo, io rispetterei la sua decisione. Perché comunque ha grande conoscenza di questo ambiente. Cioè, io non lo so, perché non ne ho idea. Ma noi possiamo contattare Yakbot per chiedergli... Scusate, problema tecnico. E mi sono perso? Dicevo, noi possiamo... chiamare Yakbot per chiedergli cosa fare, cioè se abbiamo dei dubbi esistenziali come in questo caso, se ci sia lecito o meno torturare una persona. Beh, come pensi di chiamarlo? Facendogli uno squillo. Dove il sagace umorismo di Yak. Magari lui si risponde. Va bene. Esce la testolina. Bzzz. Sì. Ci sono problemi? Io volevo gentilmente chiederle se fosse possibile torturare quest'uomo per tirargli fuori delle informazioni, visto che abbiamo la seria preoccupazione che possa essere lui lo sguarcitore di Jack. Io non capisco perché la gente mi chiama per queste cose. Forse tu dentro di te non vorresti torturare un traditore, è così che la pensi? No, io vorrei torturare il traditore. Forse però... perché sei un traditore tu stessa? Hai presente il film Beceri no. In cui Rose, non tu, ti prego no, cazzo, no, Rose, no. Ovviamente io avrei cioè dopo abbiamo un leader che è andato a puttana torturarlo subito, ma non mi sento in grado di prendere questa decisione per i miei compagni perché non sono abbastanza. Ma forse non sei il leader allora. Noi cantiamo in te. E se poi non è un traditore? A meno che tu non sia un tuo traditore, ne vado. Il leader, però i miei compagni hanno insistito tanto, e siccome loro sono molto meglio di me, ho pensato che forse fosse giusto così, insomma. Logico. Anche se dubito, però. Io a me stessa non avrei mai dato una fiducia del genere, però gli altri hanno valutato. Allora fai tutto ciò che è necessario per trovare questi navaldi ben pensanti che sgualciscono i completi. Alla svelta. Bzzz, grazie, sì. Yakbot, infinite. Allora, avete sentito Yakbot? Uccidiamo. Volevo dire. Allora direi che cerchiamo di convincerlo con maniere molto più forti, che sia di chiederglielo. Siamo mortificati, ma devi dirci tutto, hai sentito anche tu Yakbot. Per esempio potrei cominciare afferrandogli un braccio e usandogli la spalla. Ah, io vi ho detto tutto, non ho nient'altro da dirvi. Fai un tiro su, intimidire, interrogare, quello che ti pare. E se invece andassi subito alle maniere forti e facessi un fantastico tiro su forza e basta per slogargli la spalla, magari nella disperazione. La difficoltà è per 2, quindi 10, 16. Bene, io non ce la posso fare oggi con le prove, niente, fallisco miseramente anche. Io vi ho detto tutto quello che so e sembra sincero. A te. A te. Voi altri tirate tutti su Psyxcan. Che è sempre ciuspa. Che è più o meno l'unica cosa che si usa in questo gioco. Scherzo. Difficoltà? Per 2. Io no. Aspetta, cioè capire se qualcuno... No, vabbè, ok. Ci sta. Per 2, giusto? Quindi 8. 8! È evidente che sta dicendo una minchiata. E perdonami, però io non credo alle tue parole e per il bene supremo di Yakbot e sono mortificato nel farti questa dichiarazione, però ti ordino di dirci tutto quello che sai dei sgualcitori se non vuoi che finisca molto male per te. Ok, va bene. Allora io non so niente, però ho dato la chiave per accedere alla fabbrica. L'ho prestata al mio amico e anche collega, perché ne aveva bisogno, lo giuro. E lui è uno che si occupa delle forniture del latte in questa mensa. Molto va bene. il nome, puoi dirci il nome di questo per gentilmente? Sì, si chiama Ben. Ben come? Gentilmente. Si chiama Ben 5. Ben 5. Oh! Sospetto, lurido. Ma quindi, scusa la domanda, se uno si chiama 5 ovviamente perché è il quinto, ok, ma quindi c'è già il dubbio su uno che è già 5? No, in realtà no. Ogni volta che rinasce è pulito come fosse uno. Io, raga, sono mortificato, ma devo andare. Devi andare? Yep. E luridi? Sì, luridi. Come hai detto? No, l'unica Nababbi che ci hanno costretto a fare tutto questo. Beh, ascolta, Ben, questo Ben, dove si trova in questo momento? Sai dove si trova in questo momento? Me lo potessi dire gentilmente, se no sarei costretto a fare. Bene. Se dovrebbe essere al suo negozio. E qual è il suo negozio, per piacere? Ovviamente è uno spazio di Armani. No, lui fa forniture di latte e quindi ha un negozio al lattaio. E quindi non è proprio un negozio, è una sorta di allevamento. Il lattaio? Sì. Sì, io il latte, ti dirò, lo bevo soltanto se c'è anche il caffè. Sentiamo. Però, cioè, uno può bere se vuole. Lascio il comando. E prossima settimana? Venerdì o sabato va bene? Allora, io non posso sabato pomeriggio. Venerdì o mai? È difficile. difficile. Ah, poi no, forse si potrebbe fare un giovedì. Giovedì stiamo facendo il calcetto, però da fare il calcetto. Ah, la sì. Sabato pomeriggio non puoi. Lo so, adesso ci sentiamo. Domenica. Cioè, domenica probabilmente posso. Devo vedere, no, non so bene, come funziona. Se va bene, la prossima settimana inizio tirocinio mercoledì. Il che vuol dire che lunedì sera potrebbe farsi. Si può fare. Questo, sì, quello dopo però. Quello dopo, lunedì, quello dopo. Cioè, sì, non domani, dopo domani. Adesso, sì. Ci sentiamo, sì, ci sentiamo. Ci sentiamo, va bene. Va bene. Ciao, Salino. Ciao, Arci. Ciao. Ciao. Grazie di tutto. Ciao, Arci. Mi lasci il comando? Sì. Ah, è vero. È vero. Ora sì. Abbiamo un solo leader. E... Ma lui cosa fa? Sparisce, muore. E ascolta, sì, ci vediamo lunedì. Dove? Addio ragazzi. Addio. Puoi urlare un altro addio. Addio. Come si fa a suicidarsi? Okay. Ciao. Mentre state parlando di Ben. Ciao Arci. Qualcuno passi lì. E l'altro passi là. Esce la testolina di Yakbot. Sì. Agente Aimness, si presenti subito in centrale. È indagato per tradimento. No, no, così, proprio brutalmente. Mi dispiace, E vedete, è lui che fa, va bene, Yakbot, certo. E se ne va. Mi dispiace abbandonarvi qua. E spero che possiate trovare il traditore. Io tanto sono innocente, verrò rilasciato dopo l'indagine. Non ti preoccupare, sono sicuro che sarà tutto in ordine per te. Sei un grandissimo. E nel caso pure una figlia invece... Vedete che lui è... Aspetta un attimo. Vedete che lui esce dalla porta. Sì. Si guarda, si volta indietro e poi comincia a correre. Ah, quindi dovremmo inseguirlo in teoria. Boh, anche... Oppure trovare chi ha sgualcito le giacche. Ci hanno dato una missione, non possiamo deludere. Sarà andando veloce perché deve arrivare, arrivare da Jacopo. Esatto, volete andare da Jacopo in fretta. Dicevo, Ben lo trovate al suo spaccio / e consegne dove arriva il latte dagli allevamenti. Molto bene. Ci puoi indicare esattamente dove si trova, per piacere? Io non sono mai stato, però vi do l'indirizzo. Ah, grazie, anche se non saprei, ma forse Rose lo sa perché è meglio e migliore di me. Abbiamo una mappa, io... No, io non so niente. Detto questo, vi guarda e fa, io quindi sono innocente, posso andare in ospedale? Aspetta, aspetta, scusa, scusami, non volevo assolutamente dirtelo, però allora, l'indirizzo ce l'ha dato. L'indirizzo ve l'ha dato, sì. Ok. E ascolta, quindi tu hai dato solo le chiavi a lui e basta? Sì, gliel'ho prestate, ma non sarà stato lui, ve lo dico per... Sto facendo qui dentro la mensa più a fondo. Aspetta. Perché siete agenti. E ascolta... Perché ho la coscienza pulita. Ascoltami, però... Tanto come ti chiami? Non te l'abbiamo chiesto. Io mi chiamo Arnold. Ah, Arnold, piacere di conoscerti, Arnold. Basta. Bel nome. Bernard, mi chiamo Bernard. No, il tuo numero identificativo? Sono Arnold 2. Ah, piacere di conoscere Arnold 2, bellissimo nome e bellissimo numero. Ascolta, Arnold, stavo pensando che però... È un po' strano il fatto che tu inizialmente non ci volessi dire questa cosa qui, che sembra una cosa abbastanza innocente in realtà. Perché avevo paura che poteste pensare male. Ma noi siamo qua per conto di Yakbot, quindi che paura potevi avere? Scusa se te lo chiedo. Lo so, ma voi non siete Yakbot, quindi magari potreste decidere in modo un po' avventato come... Però considerato il fatto io magari sì, ma di certo gli altri farebbero ottime decisioni. Potrei sparare direttamente. Però considerato il fatto che hai ceduto delle chiavi così importanti, insomma, parliamo di completi di Armani che sono stati così rovinati, hai ceduto le chiavi a un'altra persona. Beh, comunque non comunque... so è comunque... come possiamo considerare. Io ti considererei un traditore. E Rose, se tu sei d'accordo e se non abbiamo altro da chiedergli, io lo eliminerei direttamente. Noi abbiamo l'autorità di farlo, sì. Sì. Sì, sì. Io lo eliminerei perché è molto sospetto questa cosa. Quando si muore in questo gioco bisognerebbe seccarsi una lacrima di birra. Infatti io avevo letto su Wikipedia, ognuno dovrebbe avere una cassa da 6. Ah sì? E seccare... Bello. Peccato che non guidi. Peccato che erano tipo le 3 e... Sì, tra l'altro in effetti cominciare a bere... Cioè, più che altro io, voi non bevete, comincio io intanto. Adada al numero 1. Sì, dai. Vabbè, vicino per un... Adada? Ah no, vabbè. Vabbè. Era per le 6 lattine. Quindi sì. Rose, cosa dici? Io lo considererei un traditore solo per aver ceduto le chiavi. Oltretutto, se ci mettiamo anche che, scusatemi se mi permetto, ma si trova qui in una mensa e stava, sembra, cucinando... Non so quanto possiamo fidarci di lui. Che tu che conosci delle mosse per farlo e soprattutto sei stata addestrata fisicamente per fare certe cose, cerca di estrapolare informazioni su quello che stava facendo ai fornelli. Ma non ce l'hai detto tu, Adam, che stava cucinando? Io ho intuito che stesse cucinando per il rumore di pentole, ho intuito. No, Adam, il tuo clone prima era un traditore e forse ti sei scordato di questo fatto. Esatto. Che forse ti sei scordato di questo fatto. Okay. Ah sì, era di petrolio. Il secondo. Ah giusto, altra cosa. Il tuo clone era un traditore. Okay. Forse aveva qualche malfunzione. Sì, adesso... Mi hai detto, Adam, anche tu hai visto che lui cucinava. Oh, no, domanda, se io adesso... Cioè, ma... Cioè, parliamoci chiaro, il potere è lo stesso, almeno per noi in termini di gioco, se cambi clone, ok? Ma... se io adesso dico che il mio ex, cioè il mio numero uno aveva questo potere, tu finché non lo fai vedere non è come se non ce l'avessi. Io adesso posso dirlo tranquillamente cosa ho visto prima. Sì. Sì ragazzi, il mio clone precedente purtroppo era non funzionante, era difettoso, era uno scarto di fabbrica e purtroppo aveva questo malfunzionamento che per ora può tornare più utile in quanto ho visto reietto lurido traditore troppere e bollire dell'acqua. Che schifo. E io... Bene sì, ragazzi, stava bollendo dell'acqua. Che schifo. Schifo. Morti al nababbo reietto. E io gli sparo. Posso? Sì. Vabbè, lo colpisci e lo ammazzi. Ah, non devo tirare? No. E scusa, Rosse, un tiro che... di... Scusa, Rosse, non ti ho... consultato, ma la rabbia per l'idea che fosse un ben pensante nababbo mi ha preso la mano. Perdonami. La tua decisione è perfettamente rispettabile. Mi perdonami, purtroppo. Io rispetto la tua decisione. Comunque è onorevole. È onorevole. Vez, fammi un tiro di osservare, no, di Moxie. Moxie, osservare? Sì. Osservare che cosa osservo, però? Tu fai il tiro. Va bene, anzi, scusa, difficoltà. Fatto 13. La mia difficoltà dipende dalla cosa. Però immagino che se non è 4, no, se non è per 4, fallisco. Ok, okay. Sì. Vedete che. Com'è che ti chiami? Io? Marvin. Vedete che. Ah, giusto. Vedete che Marvin fa tipo. Ora è chiaro. Ma lui ha fallito la prova. Sì. Ok. Scusa. Che cosa hai capito, Marvin? Tu hai visto, e poi decidi cosa condividere. Hai visto che l'acqua della pentola caduta, sì, è come se avesse una forma, ed è come se fosse una grande P. P di petroliere? No, P di Purge. Ah, ho capito. Ho capito. E la pentola? L'acqua che è caduta dalla pentola ha assunto la forma come di una grossa P. Ah, ho capito. E... È chiaro. Cosa è chiaro, Marvin? Cosa è chiaro, Marvin? Ora come ci si sente essere dall'altra parte non sapersi giustificare? No, è chiaro che Ben è in cioè sono tutti e due in combutta. Tutti e due chi? Ben e quello che abbiamo ucciso, Arnold, che ho appena ucciso, Arnold. Ah, e come l'hai capito? Beh, se lui è era un traditore, come abbiamo scoperto, anche Ben sicuramente sarà un traditore. Beh, questa è un'intuizione più che plausibile, ma da cosa... Ok, fatemi tutti, tranne Vez, un tiro di Psyxcan. La difficoltà è per uno. Minchia. C'è! No! Ho fatto 3 col dado! Sì, io 4, che bello fare un poco! Ok, ti sembra, Adam, che... E Marvin ci creda davvero, però ci sia anche qualcos'altro sotto. Cioè, secondo me c'è stato qualcosa che gliel'ha fatto intuire di più, dai, in quel senso. C'è stato qualcosa che gli ha fatto scattare. Non è solo l'intuizione sua, ma c'è qualcos'altro. Esatto. E secondo me questa intuizione è più che plausibile e giusta e potremmo averla avuta tutti, ma sicuramente tu sei il più bravo a farlo. Assolutamente però no. Io credo però che, grazie di averlo detto. Io credo che tu, ecco, ci sia qualcosa che non ci abbia detto. Se c'è qualcosa che può aiutarci nella missione per il Hackbot, dilla. Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire, Adam? Cosa vuoi dire? Cioè, pensi che io potrei non dirti qualcosa di utile per la missione? Mi pare proprio di sì. E scusa perché? Non lo so, tu hai... Scusa se te lo chiedo, ma perché sicuramente... Abbiamo notato che lui ha guardato l'acqua prima di fare... Ho capito, ho notato che notava l'acqua, no? Forse guardava il vuoto perché stava riflettendo. Ok, e io sono abbastanza sicuro, e stavolta non ho malfunzionamenti, che tu abbia qualcosa che ti abbia fatto accrescere le motivazioni verso la tua ipotesi. No, semplicemente stavo pensando. In realtà però a voi due non sembra tutto questo, quindi questa discussione è abbastanza inutile. E guarda, io semplicemente forse ho gli occhi magari un po' storti. E quindi ti dava un'impressione di che stessi guardando qualcosa, perché so di essere molto brutto. Ma dai, quindi, non puoi darci per buona questa! E quindi giustamente forse pensavi che io stessi facendo qualcosa. Secondo di me ha ragione. Però in realtà, quello che stavo semplicemente stavo pensando a tutto questo, cioè dopo aver agito, diciamo, distinto, perché ho pensato che fosse un nababbo, ho capito che se lui è nababbo, e probabilmente l'aver dato le chiavi a lui non è una cosa casuale. Vabbè, tutto questo smonta il mio... No, tu lo sai, rimani col dubbio, però... Rimani col dubbio, però ha senso e gli altri due non sembrano avere questo dubbio. Scusa, tu Katta non l'hai passato? No. Ho fatto 4, devo fare 3. No, e quanto hai tu? 3 o 4? Perché il pareggio vale. E io 3. Ah, ok. Ok, rimango, sì, ti terrò d'occhio. Ah, grazie. Grazie. Cosa devo dire? Ti ringrazio. Ti ringrazio. E sarete venuti dopo da me. Ok. Infatti, grazie Adam. Immagino usciate e vi dirigerete verso il lattaio. A quanta vista? Aspetta un attimo. Giù. Ma non possiamo intanto analizzare dove è stata sgualcita la roba? Se volete sì. Andiamo a vedere. Però è abbastanza tardi, quindi magari non trovate più il tizio al lavoro. E no, aspetta, però sì, prima di uscire io tipo rimango nella sala un attimo e dico al tizio che c'ha tipo... Che è fuori con noi, tipo prendo tipo la pentola e faccio e ti posso dare una mano. Intanto sei un tipo con i piedi nell'acqua e la scompongo. Sì, cioè, oh, cioè sono semplicemente nell'acqua, dico. Hai posso un tiro per non scivolare. Posso darti una mano, posso darti una mano per a mettere a posto, cioè non saprei dove metterla, però guarda, lascia tutto così che la mensa probabilmente verrà chiusa per qualche giorno. Ah, ti ringrazio infinitamente, che io sì non avrei saputo, però mi faceva piacere. L'appoggio lì dove era prima, però scoprendo la pentola ci sono due cadaveri all'interno della mensa, ora che sono un po' più problematici da mettere in ordine. Vabbè, ma lui l'ha fatto per un altro motivo, quindi vai. Vabbè, hai ragione. Però potevi fare un giro per non scivolare sulla. Piuttosto c'è un impianto di sorveglianza. E non solo comunque Yak. No. Perché Yakbot sorveglia già tutto. Ah, e poi tipo, dopo dico, ah, Dio Lercio, mi sono sporcato queste scarpe, che sfiga. Spero solo che non siano sgualcite, sarebbe veramente drammatico. Ok, stavo dicendo. Poco dolce. Dista zucchero. Un quarto d'ora, più o meno. Ok. Beh, vicino, è andata bene. Aspetta, le due ore. Andate lì? Sì. Ok. E sembra che non ci sia nessuno al di fuori. Sembra come se fosse un grosso magazzino. Ma sentite un ronzio provenire dall'interno. Ronzio? Sì. Bussiamo. È un magazzino? È un... Dovrebbe essere il distributore del latte, dove arriva il latte che poi viene distribuito. Cioè può essere, ci può andare anche dall'altra parte, tipo dietro così o solo davanti? C'è anche dietro. E... Posso fare un tiro per ascoltare, esattamente sì. Cosa devo fare. E ragazzi, mentre voi state a controllare qui davanti, che ne dite se io magari... Se per voi è una buona idea, vado a controllare anche che ci sia qualcosa dietro. Mm-hmm. Il tiro di Sceo lo fai su Mechanical Skill. Per ascoltare. E la difficoltà è per 2. No, per 1. Perché è meccanico? Scusa se chiedo per pure capire quale, che macchina. Ah, sta facendo, è ronzio di una macchina. Sì, è ronzio di una macchina. È per 2 adesso. Per uno. Per uno? Ma dai, ma dai. 20! Boom! Critico! Mortale! Me lo fai valere come qualcosa, ti prego. Non lo vede, ma è un 20. No, lo vede. Direi che non ce l'ho fatta. Allora. Io intanto vado dietro. Allora, mentre tu stai provando ad ascoltare, il tuo potere si attiva. Ma no! E tu vedi all'interno un grosso macchinario. Non volevo usarlo. Quando tu lo fai così è che lo vuoi usare, però non riesci, cioè, a controllare il coso. Vabbè, hai fatto un fumble. Esatto. Vedi all'interno un grosso macchinario e vedi oltre questo macchinario una grossa forma di formaggio e questa visione ti fa impazzire. E tu dovresti farmi un tiro su... È difettoso anche questo. Tu dovresti farmi un tiro su sempre Ciuspa. Io intanto sono andato di là, giusto? Sì, per nascondere la mia reazione. Più o meno, sì. Quindi Ciuspa difficoltà per 2, dai. Aspetta. Dipende quando è grossa la forma. anzi no, mi fai un tiro normale, un D20 di Insanity. Quindi tira il D20. Ok. 16. Ok. Grandi tiri, ci occupi. Non hai tirato così alto. Congratulazioni. Cominci... Praticamente sei come fuori di te, cioè per te è una roba folle, è come vedere una cosa assurda, impazzisci letteralmente. Proviamo a fare uno spy scan per capire che cosa... No, vedete proprio che Adam fa, no, non è possibile, no, oddio, che schifo, ah, che schifo. Aspetta. Ok. Mm. Intanto, forse. Marvin. Sì, Arrivi di là e senti che dalla c'è una porta sul retro, e dalla porta sul retro il rumore è più forte. Allora, sulla porta sul retro trovo cose più forte, d'accordo. Allora, io qua controllo di essere solo. D'accordo. E userei il mio potere per... è ronzio qua. C'è un ronzio, solo i cosi. Però non c'è niente, non c'è qualcosa che possa sembrare una porta, eccetera. C'è una porta, sì. Ah, c'è una porta. Ok, posso guardare dal buco della serratura? Cioè, userei il mio potere. Se posso guardare, se c'è un buco della serratura da cui posso guardare, userei il mio potere. Vai, tira per... power. Esatto, per guardare. Per 3. Quindi funziona che ho io 5, diventa 15. Sì. 14. 14. Okay. Ora... succedono due cose. Una, vedi un grosso macchinario che sembra una roba per imbottigliare, e poi senti odore di qualcosa di che non hai mai sentito. Quindi non so. Un odore assurdo. Vedo un macchinario di un imbottigliatore, hai detto, però solo quello, tipo in questa sala c'è solo questo. C'è solo quello, sì. E senti un odore strano, un odore che non avevi mai sentito. Ok. E... una puzza o un odore piacevole? È una puzza, ma è un odore che non conosci. Vabbè, provo a aprire la... provo a aprire un po' la porta. Si apre? E la porta è aperta, sì. E cosa vedi? Cioè, nel senso... aspetta. No, non lo posso sapere. Ah, lui è dietro. Lui è dietro, cioè, lui sta ancora svalvolando in tutto questo? Sì, lui sta ancora delirando. E io sento che... cioè, qua c'è... c'è in mezzo tutto il ronzio della macchina. La macchina sta andando, quindi sta imbottigliando. Ok, guardo. Ok, entro e guardo. Entri. Con la soglia e guardo e cosa mi c'è. Fai un tiro di osservare. Sì, che è Moxie. Non posso usare il potere, giusto? Solo se lo decido. Puoi usare il potere se vuoi usare il potere. Uso il potere, dai. Per 2. 2, quindi lo passo. Senti che alla tua destra, dietro al macchinario, senti un rumore come di una pistola che toglie la sicura. Hai tipo le orecchie fotoniche da usare. Sceo. Ehi, ok. Allora, di là Sceo sta impazzendo. E voi vedete Sceo che fa, no, non è possibile, oh mio Dio, posso provare a verificare se ha una qualche anomalia il suo clone, cioè questo clone. Faccio un tiro di psiche. Come intendi fare? Beh, in realtà tipo che non, ovviamente essendo un umano non posso usare le capacità meccaniche, diciamo. Cioè, no, è una persona. Sono un essere umano. Però sempre. È un umano con un altro. Vabbè, posso provare a usare il mio potere? Sì. Per 3. Per scoprire un traditore magari si scopre la traditrice. Ci sono. 3 per 3, 9, ho fatto 4. Ma chi? Se senti che lui sta pensando, non è possibile che ci sia formaggio, non è possibile, formaggio, oddio. Che schifo, è illegale. Cioè, è come se lui avesse visto tipo un cadavere di un bambino. Sì. Paragonato a... scusa, digli una domanda. Se il potere di Sceo è 2, non 2 di bonificatore, ma 2 totale. Non ha modificatore. E quindi la difficoltà... è 1. Ah, è 1 di quindi fallisce sempre. No, a meno che non sia un tiro facile, fai 1, 2 o 3. Cioè, in pratica, sì, non praticamente fallisce sempre, dai. Detto, sì. No, beh, non è detto. Non è detto. Rose, che cosa scegli? Può essere anche un vantaggio, però, in teoria. Che cosa... Può essere anche un vantaggio per te, perché in realtà non mostrando mai troppo. Però in realtà tu lo stai usando, semplicemente che non riesci a controllarlo. No, giusto? Io rispondo solo che sembra molto sconvolto e non riesco a calmarlo. Non ho già visto questa cosa. Sì, infatti sembra che anche questo clone sia difettoso. Che sia la matrice, prima di devi sparare direttamente. Considerato il fatto che noi ci stiamo preoccupando per lui quando abbiamo una missione più grande da compiere, vero, e sì, soprattutto, non mi ricordo il suo nome, Marvin è da solo ed è un po' che via e non sta tornando. Non sono così via da tanto. Forse dobbiamo fare qualcosa. Sì, liberiamoci. Sì. Ah no, liberiamoci di? Liberiamoci del clone difettoso. Ecco. Non possiamo permettere che ci scappi anche quando sta a me, dimmi, digno. Ok, mentre Katta gli stai per sparare, senti uno sparo. Vez. Ah, mi spara proprio, diretto. Fammi un tiro, sì, di... Non ho la possibilità di dire qualcosa prima, no? No, di dire qualcosa no. O di fare qualcosa, tipo alzare le mani, così. No. No? Ok. Fammi un tiro, ti do un bonus perché hai sentito. Fammi un tiro di agilità. Sì. E la difficoltà è per 3. Un tiro di agilità e la cosa è per 3. Allora, normalmente ho 4, quindi 12. 18. Ok, tirami i danni. L'arma è un'arma che fa 8 di danno. 9. No, sì, 9 di danno. Tira i danni. Un di 20? No, sì, cosa... è un di 20, sempre di 20. 15. Senti un colpo di arma da fuoco? Sì. Che ti trafigge il petto e cadi a terra. Ok. Morto. E no, però non puoi più rialzarti, senti che sei come paralizzato dal terrore. Ok, posso dire qualcosa o no? Puoi dire qualcosa e intanto senti una persona che si sta avvicinando. E un altro colpo di pistola da fuori. E un altro colpo di pistola da fuori. E Adam muore. Dai, che ormai passo anch'io al secondo. Dopo aver ucciso, corriamo in direzione dell'altro sparo. Ignorando completamente... Tanto ormai sappiamo che ci mangerà un clone, speriamo che... Allora io quello che io dico è... Dico, e sono mortificato di aver tradito i miei 3 amici che sono dall'altro lato del coso, purtroppo, all'altra entrata. Forse non sarei dovuto andare da solo. E poi uno sparo alla testa ti ammazza. Ok. E gli hai sbugiardato così? O meglio, li hai sbusciati così perché ora sono morto io, quindi non conto, però. Ok, poi due entrate. Cosa vediamo? Vedete un enorme macchinario, enorme, che sta imbottigliando qualcosa che vi sembra latte in bottiglie di vetro. Dai, latte. E c'è un cadavere per terra magari? No, perché è dietro la macchina, anche se non lo sai. L'odore, però. L'odore che? C'è un odore nella stanza. Latte. Ah, ok. Ok, Rosa, direi che dato che quella che ha l'addestramento militare sei tu, io ti copro le spalle e cerchiamo di scoprire chi ha sparato questo colpo. Mi raccomando. Io direi che proviamo a chiamare Marvin per vedere se esce. Se urlate Marvin... Io non lo farei, perché se l'avesse sparato lui, ora l'avremmo visto. Fatemi un tiro di osservare, Moxie. No, Moxie. Agilità. Agilità, osservare. Sì. Difficoltà è per 2. Non è in agilità di osservare. No, capire. Non ho capito. Male. Io non ho modificatore, nel senso che ho 3 di totale di agility, però ho fatto 2. non so se va bene. Cosa? Va bene, due. Okay. Vedi con la coda dell'occhio che c'è una persona che si sta appostando nel lato della macchina e vi sta per tirando su una pistola. E poi tu scusa. Direi che lo spariamo. Adam. Davanti, io sono morto. E l'hai visto tu, io l'ho visto. Però sono mortetto. No, faccio tempo a avvisare lui che c'è qualcuno. Sì, sì. Puoi urlare tipo, ah, c'è uno armato. C'è un armadio, urla. C'è lui, un armadio. C'è un armadio. E provo a sparargli. Va bene, non vi spostate dall'ingresso, ok, sparate. La difficoltà è per... È vero. Uno. Perché lui è coperto dietro alla macchina. No. Quindi è sulla destrezza. Sulla destrezza, sì. Quindi io ho un punteggio di 13, quindi un più 3, quindi devo fare un 2-3. Quindi è destrezza. Era per 1. 9. Anch'io ho fatto. Lo mancate tutte e due? Sì. E sentite dietro di voi che si avvicinano due persone. E queste due persone sono Adam 3 e Marvin 2. Oh, i rinforzi finalmente. C'è uno là con la pistola. No, cosa? Io ci sono Marvin 3. No, Adam 3. Adam 3 e Marvin 2. Siamo arrivati noi due. Dove siamo? Dietro di loro. Cosa ti è successo, Marvin 3? Marvin 2. No, ma tu sai che è Marvin, non sai che è Marvin 2. Ah, cosa ti è successo, Marvin? E purtroppo non sono stato all'altezza del compito che mi avete assegnato, mi sono mortificato questo. E purtroppo quando ho provato a vedere cosa c'era dall'altro lato, e praticamente ho provato a... Mentre state sparando il tizio vi spara. Cioè mentre state parlando il tizio vi spara, perché non siete spostati da lì. È nascosto nello suo macchinario. Spara uno di voi due, Rose o Quinn. Noi su che lato siamo? Ah, siamo sul vostro lato. Siamo arrivati. Voi siete all'entrata, loro sono appena entrati e hanno sparato. Si sono spostati. C'è il macchinario davanti. Ma siete alle nostre spalle ancora fuori perché siamo arrivati da davanti della fabbrica. Rose e Quinn, tirate un dado a 20. Dove va? Più alto non viene colpito. Non esce da qua la sua voce. Tiriamo cosa? Un dado a 20. No? Io ho fatto 9. Forse non è caro. 10. Che sfiga. 10. Ok, allora Rose tira su agilità. La difficoltà è per 2. Potrebbe essere o perché scarica, però in teoria... No, fallito. Ok, tirati danni, l'arma fa danno 9, tira un di 20. Però non ci sta un'altra, vero? Fatto 4 con di 20. Non ci sta. Vabbè, teniamo okay. Così. Mentre Rose, con la sua super abilità militare, si volta in una sparatoria verso di voi, viene colpita di striscio a un braccio. E ditemi cosa fate. Viene colpita e cosa stai facendo? Parla Sal. Parlo. È più basso, va bene. Secondo me. No, va bene. Me ne sbatto, tanto è quasi finita, quindi finiamo ormai e buono. È come se fossi in una specie di acquario, posso togliere. È come se fosse una io estraggo la pistola e sparo. Ah, sparate tutti così a muzzo, va bene. Non vorrei diventare quarto in fretta, sai com'è? Io grido di mettersi al riparo perché è pericoloso e Rose è stata colpita. Ok. E provo a tutti, tranne no, niente, sparate tutti per colpire. Io provo a soccorrere Rose in realtà. Lei è a terra, no, non ho capito. No, è stata colpita di strisce. Io provo a buttarmi dietro il macchinario dall'altra parte e fare il giro per prenderlo alle spalle. Ok, gli altri sparano? No, allora posso provare a sparare a chi? Al tipo? cioè in modo che non sia un colpo. Ma lo vediamo lì davanti il tipo? No, il tipo è dietro la macchina. E quindi non vediamo i colpi da dove arriva. No, vedete il tipo, però è coperto, cioè voi potete sparargli, ma la difficoltà è alta. Allora mi sparo finché non lo... mi sposto. Spari. Forse, forse... sono fallito. Forse Adam 4 sarà meglio di me. Non per creare mi sposto per avere una linea di tiro e sparo, se posso farlo. No. Cioè, nel senso, devi girare intorno alla macchina davanti a lui, oppure dietro come sta facendo Kat. Coprite, allora... mi dico quando vado. Se vado... non facendo il giro come Kat, ma davanti da quella... Sì, no, ho capito, la macchina è tipo al centro. Sì, ecco, c'è sta stanza enorme. Dentro c'è una macchina, voi siete all'ingresso. C'è sta stanza enorme, dentro c'è questo macchinario, lui è qui, voi siete... E Kat è andato a sinistra. Di... qua. Kat è andato di qua. Ok. E qua c'è il cadavere di Vez. Che però ancora non abbiamo visto. Ok, io andando dalla parte a destra, quindi rispetto all'ingresso, c'è qualcosa in cui nasconde? C'è solo una cassa, qualcosa? C'è solo il macchinario? Sì, ci sono delle cose, oppure anche la porta, cioè l'entrata. Cioè, vorrei creare, comunque tentare di cominciare a creare una linea di tiro con lui, però intanto nascondermi. Cioè avvicinarmi in quella direzione. Ti dico, ti puoi nascondere o dietro la porta, cioè dietro all'ingresso, oppure ci sono delle casse in giro. Allora vado verso destra e mi nascondo dietro una casa. Io invece mi quindi faccio un tiro di stealth. Dietro? No, aspetta. Perfetto. Visto che lui è comunque dietro questo macchinario, posso provare a correre in direzione del macchinario per tenermi, tipo nascondermi passando contro il macchinario stesso? Non so come spiegarlo. Sì, però lui è nell'angolino, quindi poi fa così e fa boom. Vabbè, ci provo lo stesso. Se no sei un cazzo di militare, ti mette fare così. Allora il macchinario ok, cioè in realtà se uno si addossa di fatto è un po' coperto, però io vorrei vedere, vedo qualcosa tipo diciamo un punto dove si può accedere ai comandi di questo macchinario dal punto dove sono? E no, però è una buona domanda perché vedi che c'è una sorta di scaletta sulla sinistra che va su un palchetto con dei terminali. Ok. Però ok, la scala è dal punto dei terminali. No, non c'è la scala, scusa, ho detto una cazzata. La scala è diciamo nella linea di fuoco da dove arriva i proiettili sì, o no? Ci sono delle casse in mezzo, però se sali sulla scala sei un bersaglio. Ho capito. Abbastanza scoperto. Aggiungo un'altra domanda. Quello che il mio clone ha visto, ma che loro non sanno, ma è il motivo per cui sono morto, di fatto, dov'è? Non lo sai. E... in che senso? Quindi prima che non hai percepito la profondità e quindi non sai dov'è. Ah, ok, ho capito. È stata una mezza visione, diciamo. Cioè, tu hai visto attraverso, però a culo, quindi non sai esattamente in che distanza è. E... posso provare a usare il mio potere su il tipo, ovviamente? Sì. Però puoi scegliere, o usi il tuo potere o ti nascondi e lo usi il prossimo, tra virgolette, round. No, uso il mio potere, basta. Ok. Difficoltà per 2. No, ok, fallito. E... ho fatto 12. Ok, non di tanto. Io ho un 3. Io provo a avvicinarmi, invece vado dalle scatole per poi andare dalla scala. Provo a nascondermi dietro le scatole. Ok, allora il tizio sparerà su Rose perché è l'unica che è rimasta più o meno visibile e ha fallito il tiro. E mi fai un tiro su agilità. La difficoltà è per 2. Posso anche tenere qui l'invito del podcast, sappiamo. Vado un attimo in bagno, dicevo anche agli amici del podcast. E non ho bonus, che io ovviamente ho fallito miseramente. Hai fatto 3? Sì. E 3 non basta? Io ho 0, perché ho 3 totale di abilità, quindi è come se avessi... E tirati i danni? 5. 5. danni come funzionano? Sembra che non ti abbia colpito, cioè nel senso ti ha colpito ma ti ha colpito il vestito, quindi è più grave, però in realtà non sei ferito. I danni funzionano che a seconda dell'arma hai tipo una tabella. Ti ricordi Signore degli Anelli? No. Il gioco con gli omini? No. Che avevi danni, difesa e una tabella. Ah, ho capito in che senso. Ah, ok. Qui invece che avere la difesa tiri un dado da 20, a seconda di quanto è il danno il punteggio ti dà 6. Non danneggiato, danneggiato sì. Lievemente, ferito, sì. Morto. Sì, sì, ho capito, capito. Praticamente essermi danneggiata vestito è come essere morta, più o meno. Però... Mm. Sì, però vabbè. Bene. Okay. Io ho fatto il giro da intorno al sì. Macchinario. Cosa vedo? Tu vedi un cadavere di Marvin. Mm-hmm. La fine. E poi niente, poi c'è dietro al macchinario c'è una porta e basta. Cioè tu sei dietro l'angolo, diciamo, del macchinario, dalla parte opposta dove è il tizio. Ok, provo, vicino a me ci sono dei comandi del macchinario o qualche parte che io capisco che è sensibile per tipo farlo esplodere? C'è il macchinario stesso. E capisco che se ci sono, non so, delle... fare un tiro su mechanical skill. Cerco tipo delle bombole ad alta pressione per fargli esplodere il macchinario in faccia. Oppure usare... Oppure usare... Però dipende, perché in mechanical ho tirato un 19, quindi un più 5. Per cui me la sento abbastanza dura. Però aspetta... No, vabbè, uso il mio potere. No, no, no, aspetta un attimo che devo guardare una roba. 20 power. Sei carmino, eh? Com'è che si chiama? Scusate di giocare ancora, scusate. Ah no, ok, sì, è più o meno è il concetto, è lo stesso. Finiamo. Sia potere, sia tiro meccanico. No, vabbè, voglio usare il mio potere così. Ti dico già, col tiro in meccanica la difficoltà è per 10, perché non hai mai visto niente. Col tuo potere la difficoltà è per... Cioè, scusa, per 10, è per 1. Per 10 non... Col tuo potere la difficoltà è per 3. Ok. Le parti che esplodono. Uso il mio potere. Ma è andato su. Lui. No, lui ha fatto il giro dall'altra parte. Non è sulla scaletta. Il tipo è qui, e spirito. 8. Per qui, e spirito. 8 su. Giro, e da qui, vede se può far esplodere. In meccanica ho più 5. Cioè, ho il modificatore. In power? In power ho 20, di dado. Quindi... più 5. Ah, ok. Allora, sì. E col tuo potere noti subito alcuni punti delicati. Mm-hmm. Che se... diciamo, se spostati o danneggiati o anche semplicemente metti un altro pezzo in mezzo all'ingranaggio, potrebbero danneggiare gravemente la macchina se non far esplodere la macchina. Va bene. Capisci anche che questa macchina è una macchina che serve per imbottigliare il latte. Però ha qualcosa di strano. Ah, e lo riesco a capire quel qualcosa di strano. Ti sembra che ci siano alcune parti in più che non sono necessarie. Ok. Va bene. Ma lo capisci che se esplode il macchinario esplodiamo tutti? Questo ti è chiaro? E poi arrivano i cloni. Esatto. Vi dico ovviamente di uscire. Io se possibile salirei invece su. Ok. Se sono nascosto tra le sedie. E cercherei a salire. Sì. E poi guarderei sul terminale di capirci qualcosa. Ok, la difficoltà è per 1. Ed è di... A meno che tu non possa giustificarlo in background. Electronic, meccanico, queste robe qui. Sì. No, non mi sembra. Tu lavoravi con computer in teoria, però. Io lavoravo con un computer perché sono un segretario. Sì, sì, è vero. Me ne batto il cazzo. Vabbè, sì, perché questo è un termine. Dipende come è fatto, però. Ma che è tipo un computerone, però. No, cos'è o sono delle leve? Entrambi. Vabbè, allora no. Cioè, se il fatto di lavorare con un computer non mi dà nessun vantaggio. Però ho hobby internet. Va bene. Vedi, funziona, te l'ho detto. Vabbè, tiriamo. Niente, mi sa. 8. Niente. Cioè, non capisco neanche tipo qual è la. Diciamo, niente. Cioè, non, cioè, sono tipo per me tipo un mostro con dei tentacoli. Esattamente. Va bene. Quello, più o meno. Ho finito le mie mosse, posso fare ancora qualcosa? No, gli altri due cosa fanno? Ma l'abbiamo sentito lui che diceva di uscire? Non l'ho ancora. Non l'ho ancora detto. No. Vabbè, io se ho già una linea di tiro più o meno, cioè io ero nascosto, però non ho mai potuto tirare per nascondere, quindi non so cosa dove sono. No, perché lui ha sparato su quello scoperto, non ha neanche provato a vedere dove eri. Ok, e da dove sono ho una linea di tiro migliore? No, però neanche peggiore. Cioè, la difficoltà in termini di gioco capisco che è troppo per me. È sempre per uno, non so quanto hai... Vabbè, provo a sprecare un proiettile. Sono infiniti, quindi va bene, ok. Però ho 4, dai. Ho 4 possibilità, un quinto di possibilità, tutto sommato. Ho fatto 6, tra l'altro. Dai, gli vado vicino, però. Sì, però non l'hai colpito. Lo intimidisco un po' con questo proiettile. Capisci che gente valida. Io da dove sono posso provare a sparargli? Sì. Allora provo a sparargli avanzando verso il macchinario. Vai. No. Ok. Lui spara su il tizio al terminale. Cioè nel senso stai avendo il momento che sto toccando. Spara sul tizio al terminale. Hai capito? Che farà un tiro su agilità. Chi è che mi sta sparando? Per tre. Ah, il tizio sta sparando me. Perché ho capito che sta facendo lui. Lei, ok. Cosa devo fare? 30 agilità. Per tre agilità. 30. Non so, Urban Heroes che mi sta. Per tre agilità. Per 30, per 3, è facile. Sì, 7, facile. Schivi il colpo, con facilità. Tocca a tutti voi. Okay. Allora io a mano metto le parti e dico gli altri di scappare me la do. Sì, di sopra. Ok, no, fammi un tiro di meccanica con una difficoltà bassa, quindi per 3. Vabbè, la meccanica di gioco 15. 15 su 15? 15 su 15. Ok, allora sei riuscito a modificarla, anche perché ti era abbastanza chiaro col tuo potere, e puoi modificarla in modo da darti il tempo che vuoi. Era quello per scappare. Che... Perfetto. Vabbè, io obbedisco e mi riporto verso... Ma noi sentiamo questa cosa. Sì, voi sentite lui che urla? Cosa urli? Datevela gambe. Ok. Fuori. Allora io mi porto verso l'entrata e esco di nuovo da dove siamo entrati. Insomma. Ok. E vedete che anche il tizio dietro esce con voi urlando. No! Io non ho detto che stava per... ho detto solo di darsi la gamba. Vabbè, lui forse ha capito. Ah, che okay. Ok, allora no, non ha visto. Ma magari può fare un percepire intenzioni per capire quello che... No, non può. Perché ho deciso che non tirerò neanche un dado perché non li ho neanche presi e non voglio prenderli adesso. Alzarmi e andarli a prendere. Allora io provo a tirare, cioè Marvin e Adam più lontano dalla porta, mi faranno un tiro su agilità con una difficoltà per 3 per vedere se riescono a uscire. Passato, ho fatto 6 su 9. Ok, io non ho capito un cazzo di sta cosa. Posso provare a tirare una leva prima di andare? Sì, però la difficoltà diventa per 2. Dopo per scappare. Vabbè, al massimo c'è il clone. No, appunto, però devo comunque provare a salvarmi. Vabbè, provo a tirare una leva. A caso? Non lo so. Spegnimento, se riesco a capire qualcosa che può sembrare uno spegnimento. La più grossa. Ok, allora, facciamo che hai il 30% che sia la leva di spegnimento. Nel caso non esplode neanche la macchina. Cosa tiro? Un di percentuale? Sì. Quindi da 1 a 30 e ce la fa. Sì, ce li ho. Sì, sono solo decidere quale. E nell'angolo in basso... Ah, non di 8. Scemo. Allora, puoi prendere il primo che ti capita. Perché hanno... Dimmi. 0,30 ci piglio? Sì. Sì. No, 50, niente. Niente, e ora mi fa il tiro di agilità per due, per vedere se... 3, facile! Grande! Ok, uscite tutti e sentite un boom. Chiudo la porta. A me? No, dopo che è passato lui. Così mi assicuro che lui ha la possibilità di uscire in fretta. Ok. Sentite una esplosione non grandissima, però una lieve esplosione, cioè sboom, dentro. La porta fa un rumore, poi non sentite più niente. Come se stesse per cedere, e poi non sentite più niente. Ok, ragazzi, io rientrerei per controllare... io rientrerei per vedere se il tipo sta cercando di scappare o meno. Anzi, forse la cosa migliore potrebbe essersi dividerci in due davanti, entro noi, e gli altri due dietro, in modo che se sta scappando da retro lo fermiamo. Sì, ragazzi, dietro voi non lo sapete, ma c'è una porta e io lo so perché sono stato purtroppo ucciso una volta che ho provato a guardare dentro cosa c'era. Per cui se andiamo dietro... lo farei, però con molta calma, se non è un problema darmi questa opinione. Per evitare che lui... Penso che all'interno sia pieno di fumo, quindi lui dovrà uscire se non vuole. Appunto, per quello dico due davanti e due dietro, in modo che lui da qualche parte scatterà. Va bene, direi voi due che siete nuovi di zecca, state qua, noi due invece andiamo dall'altra parte. Ci sto. In realtà non vorrei contraddirti. Ma forse è meglio che andiamo. Vedo che Rose sta colpita. Forse è meglio che vada io. Va bene, hai ragione tu come al solito. Che sono non lo so, però dipende se Rose, che è il nostro leader, è d'accordo. Ma noi abbiamo la consapevolezza di avere dei cloni che ci sostituiscono quando moriamo. Sì. Cos'è? Una cetaceo e un spettacolo. Come scusa? Abbiamo la consapevolezza di avere i cloni. Bellissimo quello. Una grande scelta, brava. Sì, anche ma non siete voi. Quindi vi pesa un po' il culo, crepare. Cioè, fa male e voi morite, nel senso che i cloni non siete voi, ma sono altre persone uguali a voi. E non entrerei sulla filosofia dell'essere. Va bene, allora se pensi che sia il caso di andare tu, siccome io faccio schifo, lo so... No, Rose, è proprio per il fatto che tu sei migliore di me che io dico questo. Non per altro. Davvero. Se pensi di andare tu... Penso sia l'idea migliore. Ti ringrazio infinitamente per la fiducia. So di non esserne degno, però... Vedete a un certo punto un... Bzzz, e rega... C'è voce di un'esplosione. Che cosa è successo? Grande Yakbot. Finalmente. Abbiamo trovato un macchinario dedito a operazioni maligne. Luride. Erano cose luride ben pensanti. L'abbiamo distrutto in tuo nome. Ah, ottimo. Mi raccomando, smantellatela e scoprite tutto. In realtà no, Yakbot, sì, non volevo interromperti, perdonami. Però tutto il merito va dato al grande... No, non ho fatto un al grandissimo Queen, che tra l'altro è un nome spettacolare. Grazie, ma è il più bello di tutto. No, assolutamente. Fatto cagare. Ok, indagate a fondo, perché voglio capire il motivo di questo tradimento. Sì, signore. Sarà fatto, signore. No, è lì, con te ti seguo. E Queen, tu sei veramente una persona di grandissimo livello e ti volevo fare tanti complimenti per la tua azione. No, non ho fatto un cazzo. E veramente congratulazione, sei veramente veramente bravo. Sì, però muoviamoci, che però... non è scappato da re. Sono d'accordo con tutto questo tempo il tizio ormai. In questo caso è complimevole. E ascolta, Adam, tu sei sicuramente bravissimo in tutte le tue capacità, però è anche giusto far notare quanto sia bravo Queen in questo caso. È vero. Comunque quello che volevo dire, Queen... Esce la testolina, si può dire che Queen sia la regina di queste cose. Lì ci parte tutta la risata così, però. Tipo di E rientra la testolina. E si è tutta la città tipo... Grazie. Vabbè, e quindi niente, allora dico, Queen, forse è meglio se vado avanti io e tu magari mi copri, perché comunque stai giocando a Pokémon e questo esatto. Potrebbe... Come hai detto, scusa? Come fa a giocare a Pokémon? E... catturiamo i traditori come se fossero Pokémon. E Rose, Adam e... rimaniamo davanti. E siccome, esatto, voi magari rimanete davanti, e, però ecco, se c'è un problema, e magari io purtroppo non ho soldi nel cielo, non ho cash nel cielo. E, non vedo nessuno di noi. E quindi magari vi faccio uno squillo se c'è un problema, esatto. E poi voi magari mi chiamate e ne parliamo. Ma non ho soldi neanche io. Neanche io soldi. Io risponderemo con un altro squillo. Ah, vabbè, non è un problema. Ognuno giustamente i soldi li usa come preferisce. Comunque, se c'è un problema, vi facciamo uno squillo semplicemente. Va bene. Okay. Ah no, potremmo fare un segnale in realtà. Potremmo dire se c'è uno squillo, c'è un problema, due squilli, tutto ok, potete passare di qua. Così, c'è un problema. Esatto. Ogni volta così. Ok, direi... fare il contrario. Eh no, perché il problema fai subito uno squillo e poi devi fare qualcosa. Ok. Ciao. Esatto. Ciao. Vabbè, se siamo in quattro, in realtà non ha senso, secondo me è fatto così. Se tipo non sta scappando, di cominciare ad entrare per la circondata. Anche sono tre, anche i Rangers era tutto ok. Lì era il contrario. Al contrario. Lo so, però era complicato in realtà. Va bene, vai. Stupidi Ranger. Anzi, esterni è la cosa peggiore. Stupidi guardiani della notte. Esterni, estranei è la cosa peggiore, tipo è sbagliato, perché in teoria l'estraneo potrebbe uccidere, lui dice tutto a posto, ma ci stanno massacrando, no, ha detto che è tutto a posto. Va bene, allora entrate, vado avanti, no, di là, dall'altro lato stiamo andando, io vado avanti adesso. Indipendentemente da dove entrate, allora quelli che entrano nella porta principale, aprendo la porta vedono che dietro la porta c'è piantato un tipo un ingranaggio enorme, che era quello che aveva fatto sobbalzare la porta. Ah, ok. All'interno la macchina è esplosa e c'è più o meno latte ovunque. Sì, no. Le casse si sono aperte e quello che c'è nelle casse sono forme di formaggio. Il tizio è svenuto all'interno di una pozza di latte. Il tizio è svenuto? O morto. Dobbiamo arrivare un identico. So che il mio clone stava facendo. Ok, io direi di controllare innanzitutto se è vivo. Il tizio è vivo, sì. Siamo dietro. È svenuto. Noi ci mettete davanti e loro da dietro. Però siamo arrivati tutti a questo punto. Ok. C'è qualcosa per immobilizzarlo? Una forma di parmigiano. C'è qualcosa per immobilizzarlo? Non avendo corde con me, non ti sentiamo più. Ci sono delle cinghie della macchina. Ah, ok. Sì. Spezzate, rotte. Io gli leggo mani e piedi, tipo incazzato. Prima magari vediamo se è morto o solo svenuto. No, mi ha detto che è vivo. È vivo, per quello senso. Ok, loro il capretto. Che è molto bello, vero? E poi dico agli altri: il termine tecnico. Esatto. E dico agli altri: intanto voi perlustrate il retro. Qualcuno di voi mi faccia un tiro di meccanica, difficoltà 1, per capire come funzionava effettivamente quella macchina. Ma io? No. Tutti voi potete farlo. Ah, ok. Provo a usare il potere. Sì, puoi provare, la difficoltà diventa per 2. Difficoltà quanto hai detto sarà 1. Io ho fallito. Non lo so, io oltre che guardare i treni passare, facevo qualcosa di attivo nella manutenzione. Ma guardavo solo i treni per avanti. Ascolta Adam, ma tra i treni che guardavi c'era anche il treno A e il treno Thomas. Tutti i treni, sì. Tutti i treni, sono il treno Thomas. Tutti i treni, cioè tutti la faccina. Thomas 1. Io vado a prendere la Thomas 1, tu. Io ho preso la Thomas 3 fino fino a comunque niente, non ce l'ho fatta fino a Piazza Armani e poi da lì prendo la Thomas Cine. Qualcuno di voi ci ha fatto. Io ho fatto 14. No. Era per due, no? Sì. Per me era per due. Per me era per uno, ho fatto 14. Ogni l'unico modo è svegliare il tipo. Per me era per uno. Vabbè, io ripeto, intanto ho detto a loro di perlustrare il retro, qualunque cosa ci possa essere, se c'è altro. Non c'è niente, l'edificio contiene solo questa grossa macchina e ci sono delle gran forme di formaggi. Oh, chiedo ai miei compagni se c'è possono fare, cosa può fare il terminale che c'è su, se qualcuno può tentare di capire o se posso provarci lo stesso. Comunque a dei vale già nel tiro che hai fatto. Ah, ok. Però allora se posso permettermi, i comandi io li ho sempre usati di un qualcosa. Sì, però non sai cosa servono. Cioè, in questa specifica macchina non sai cosa serve. Posso intuire qualcosa di più? No? No, perfetto. Il mio lavoro è stato molto utile in tutta questa sessione. Quindi non so cosa intuire. Sei morto due volte. Cos'hai capito? Niente. Ma non sei riuscito? No. Ah. Per puoi tirare con una difficoltà di per due. Ok, però vale il tiro di prima o me lo fai rifare? Lo rifai. Ah, oh, ottimo. Tanto per lustro addosso al tipo se ha delle chiavi... Tre, col danno. Ok. Quindi devi capire la macchina. Tutti gli interruttori sì. Servono ad azionare la macchina come velocità e per bloccare alcune parti oppure e per esempio. Scusa, Salla. Ho detto a Yak che stiamo giocando nel suo mondo, se vuole dare un occhio, e la sua risposta è meravigliosa, ha detto un mondo triste, puntini puntini, fortunatamente per voi ne uscirete presto. Ok. E, comunque in effetti a forza di giocare con sto cazzo di roba mi sto tipo in deprimendo. Immaginarsi un mondo così sì, vabbè comunque e quello che dicevo è puoi controllare anche alcune percentuali e nel senso la macchina può controllare il quantitativo di cose messe nelle bottiglie. Cioè ci sono dei comandi per controllare questo. Però da quello che capisco semplice imbottigliamento. Come? Da quello che capisco comunque semplice imbottigliamento. Di fatto sì, niente di eccezionale, però può controllare anche alcuni parametri. Okay. Ce lo dici questo o no? Sì, dico agli altri cosa penso di questo macchinario, cosa ho capito di questa cosa un po' particolare. Effettivamente se imbottigli sempre solo latte è sempre la stessa quantità, quindi non avresti motivo di regolarla. Dipende se ha la possibilità di fare lo scremato l'intero. Giusto, qui il latte che cioè, in questo mondo ho paura a chiederlo, però... Come hai detto? Che schifo il formaggio innanzitutto, questa è una cosa che va detta. Ragazzi, non è per dire, però non fa un po' schifo stare qui. Beh, innanzitutto potremmo avvisare Yakbot che qui era pieno di formaggio. Gli abbiamo già detto a Yakbot. Ah, Adam. No, gli abbiamo detto che c'era. Avevamo questo formaggio ancora. In realtà il formaggio era stato visto da lui nella sua visita. Ah, non avevamo, è vero, non avevamo visto le forme, giusto? Ora sì. Le forme le abbiamo viste adesso, quindi dobbiamo... Io non ho mai visto una forma prima di entrare da questa porta. Ma tanto è già morto anche quel crono. Beh, esatto. Non l'hai mai visto. Anche di... Ma niente, il mio crono è presente. Casualmente, come il primo, aveva la vista la Gix. Il tempo è intrappettato, quindi noi nel frattempo possiamo avvisare Iacco, dire che abbiamo preso questo che ci sparava addosso e che... Qui si produce il formaggio che però vedremo a importare. E palpo il tipo per sentire se addosso chiave, tipo la chiave che gli ha dato. È una buona idea, però ricordati sì, anche che abbiamo disturbato gli Yakbot più volte oggi. Forse è meglio prima avere delle informazioni in più. Abbiamo trovato dei traditori. Ok, sì, lui addosso sì, ha delle però chiavi. Però prima lo interrogherei una volta chiavi, che abbiamo delle informazioni. Vediamo se ha la chiave della fabbrica. e anche la chiave della fabbrica. E c'è scritto sopra chiave della fabbrica. Ah, la chiave. Io non saprei. C'è scritto proprio così. Non c'è scritto il nome della fabbrica, c'è scritto proprio chiave della fabbrica, tipo videogioco. Esistono documenti in questo mondo. E certo. Quindi lui ce li ha addosso. Sì. Si chiama Ben. Si chiama Ben e di professione c'è distribuzione. No, come si chiama? Aspetta. Arrivo. Qua. Technical Services. Grazie, ora che mi hai detto così mi hai aperto un mondo. Sono quelli addetti appunto a macchinari e aspetti logistici della, di come è organizzata IACASILU. Va bene, sappiamo chi è. Sì, adesso manca solo di interrogarlo. Svegliamolo. Gli verso addosso del latte. Del latte addosso. Che schifo! Okay. Che schifo! Bene maltrattato, però. È comunque un essere umano. Buono, sembra apprezzare. Poi si sveglia e fa... Ah, che schifo! Io lo ucciderei già adesso. Ci deve dare delle informazioni. Magari non lavoro da solo, proviamo a sentire se ha qualcun altro, qualche complice. Abbiamo già ucciso però un suo complice. Chi sei? Ben. Cosa facevi qui? Distribuisco il latte. E vedi perché tutte le fa... forme intorno. Ok. Perché ci hai sparato quando siamo entrati? Non dirò più niente. Voglio il mio avvocato. Cosa? Beh, in effetti, forse... Anzi, scusa, liberiamolo e facciamo altro. Tira su interrogare Cattabriga. Okay. Per due. Per due, quindi ben sei. 18. Oh. Avvocato. Comincia a dirgli tu la verità. Esatto. E, vabbè, io provo a torturare nel senso di tiro tipo uno schiaffone e gli dico che deve parlare, sennò finisce male. Ok. Partirà. Perché va finito. Ah, Adam, sembrano questi modi. Intimidation, comunque. Intimidation è sempre su spa. Difficoltà? Tu hai? Ho 4. Vabbè, 8. E faccio 9! Ah, ce l'ho qua sulla punta della lingua. Ok. Avvocato. Beh... io posso provare a dargli semplicemente un pugno per vedere se si riprende e smettere di dire delle minchiate. Sì, però sì, che ha senso. Beh, tuo potere. Una tortura. Non credo sia utile, molto show. Beh, ascolta Ben, non è per essere scortese, però il tuo atteggiamento non ci aiuta molto in questo momento. Non aiuta te. Però sono innocente fino a che Yakbot non dice che sono colpevole. È vero, però sai, forse ormai hai capito. Ah, credo dicessi chiamo Yakbot, colpevole. L'ha detto lui, Ah, no, ho fatto uno squilla, va bene. Bravo. Bravo. Squillo Yakbot. E forse però ti conviene darci qualche informazione, Yakbot potrebbe essere clemente con te. Va bene, tira. E... sempre ciuspa. Hai qualcosa di background? Dovrebbe essere tipo oratori? No, è sempre interrogation. Motivation? No. Cioè, poliziotto buono, poliziotto cattivo. Esatto. Oddio. No, ci siamo sempre lì sul... Sempre per due. Vai. Io intimidivo i treni. Conta. Cazzo. 3. Quanto hai fatto? 3. E hai? No, l'ho preso. Cioè, ce l'ho fatta, purtroppo. Perché purtroppo? Purtroppo lo dico come giocatore, non come personaggio, ovviamente. Perché purtroppo, scusa? Cosa vuoi dire? Io intanto la Yak. Sì. No. Va bene, magari Yakbot sarà clemente. Intanto esce la testina. Grande Yakbot, abbiamo catturato un nababbo dissidente. E ha da dirti alcune cose per chiedere la tua pietà. Di pure, Ben, non avere paura. Sì, sentiamo, sicuramente potrà essere perdonato se le motivazioni sono buone. Intanto Yakbot ti consiglio di guardarti intorno. Guarda quante forme di formaggio nubile. Che schifo! Attivate poi il tilt. Il tizio fa, va bene Yakbot, io volevo, penso che sia una cosa abbastanza ragionevole, e già voi sentite un brivido di freddo e terrore per Ben. Io è una cosa logica, pensavo il formaggio è come il latte e quindi pensavo di convincere tutti gli abitanti di Yak Asylum mettendo una piccola quantità di formaggio nel latte per dimostrare che non si sente la differenza se è molto piccolo, e quindi è la stessa cosa. Silenzio. Qui hai la chiave della fabbrica. Ti prego, Yakbot, dacci la possibilità di ucciderlo qui in questo momento, dopo questa orrenda dichiarazione. Dategli fuoco. Bruciate gli olivastri. Bruciatelo. Sono più gravi le camicie o il formaggio nel latte? Il formaggio nel latte è un attentato. No, è il formaggio nel latte, è la cosa più pericolosa, è tipo arma di distruzione di massa. Già il fatto che tu faccia questa domanda. Ma quindi ci dice di ucciderlo. Però c'è, cioè, una cosa. Però lui aveva la chiave della fabbrica. Quindi lui o è stato lui o sa chi ha sgualcito anche le giacche. Dovremmo chiudere il caso. No, sì, io ho anche sgualcito le giacche perché non sopporto questa cosa. Cioè, mi sembra così logica. Il formaggio è uguale al latte, sono le stesse cose, gli stessi ingredienti. Yakbo, di soltanto una parola. Sentite un silenzio, poi. Tratta chiaramente di un pazzo nababbo, lui, ucciso lui, è sistemato tutto, tutto torna alla normalità. Date fuoco agli olivastri. No, dice... No, ha detto bruciato, io per buona la prima. Diamo fuoco a tutto. Va bene, ti toglierò solo dalla lista degli amici. E li spariamo adesso. E sì, si vede sparato. Il conto del tipo che diventa sì. Ha perso tutto. Vai, gli sparo. E lo uccidete, immagino. Io avrei bruciato tutto, però. Bene, avete fatto un ottimo lavoro. Grazie. E per questo forse questa città sarà un po' meno lurida. Avrà 4 bro in più. Che? No, avrà 4 bro in più. No. Oh. E già il fatto che tu l'abbia chiesto? Uccidimi, tanto sono io. Possiamo far scadere Adam. Guarda che è stato un sacco. Manderò qualcuno a occuparsi di questo disastro. Probabilmente dovremmo spargere sale in tutto questo edificio, in tutta quest'area. E sarà lutto nazionale. E ritirare tutte le bottiglie di latte. Esatto, soprattutto devi ritirare il latte che è uscito qui. Ma tanto chi beve il latte? Era nel cappuccino di qualcuno. Potrebbe, esatto, poteva finire nel cappuccino di qualcuno. Bravo. Però, mamma mia, la bontà. Vabbè, ho capito, ma se mette tipo una piccola traccia di formaggio. Sì, ecco, no, come hai detto? Bellissimo, è bravissimo. Cosa vuoi dire, Adam? Sparo Adam, brutto figlio. Come Adam? Come stai, Adam? Di nuovo buttiamo le armi su Adam. Adam, come stai? Va bene, e direi che l'episodio finisce con voi quattro che uscite dalla fabbrica, mentre di fianco a voi arrivano delle ruspe per demolirle, tipo dei cosi di sale per spargere sale su quest'area e bonificarla. Spargere sale? Vabbè, neanche una malattia, è una roba... Va bene. E detto questo, Vabbè, spero che io che non vi siate nauseati come me a interpretare Yak. Alcuni di voi hanno interpretato veramente male la loro società segreta. Infatti io ve le farei leggere, ve le farei dire, perché non si è capito che società segreta appartenete. Perché in teoria ognuno di voi dovrebbe avere una società segreta e avrebbe dovuto seguire. Io ci ho provato. Cioè, no, cioè in realtà ci può stare, però... Boh, sì, no, va bene. Forse io. Io ero dei Purge, cioè quelli che hanno fatto sta cosa qua. Quindi io ho provato a dargli la possibilità di questo di scappare. Quelli che, aspetta, forse nel complotto hanno fatto questa cosa qua. Per te è tutto un complotto enorme. Cioè, nel senso, tu sei convinto di questo, però la verità è che a volte vedi indizi dove non ci sono, quindi probabilmente sì. Io quello che ho cercato di fare, spiegando quello che a livello così extra, è stato, cioè, di dare a lui la possibilità di scappare, solo che non è scappato, di provare a mettere in salvo la macchina, cosa che non sono riuscito, e poi alla fine di fare in modo che lui venisse eliminato il più velocemente possibile per non far sì che si scoprisse di più sull'organizzazione, che era l'ultima. Era per quello che hai detto purtroppo. Sì, per purtroppo, okay. Alla fine, allora però no, poi alla fine, una volta fatto, tipo, in sì, realtà sì. Io ho provato a dire, posso ucciderlo subito, tipo, no, ma ci stava. Che era l'unica cosa che poteva fare. Cioè, delle due è andato bene perché nessuno di voi è stato sgamato perché apparteneva a una società segreta. Sono stato io. Quello che hai interpretato da merda sono stato io. Beh, alla fine esatto, infatti allora voi non tu sei scemo. Allora, posso dirla o pensi di poterle fare ancora? No, questo si farà più. Perché ho fatto nella storia dei bolliti in cui praticamente noi speriamo, auspichiamo ad un mondo dove si mangia cibo bollito e pasta e quindi in realtà lì col tizio che bolliva la roba avrei potuto fare di più. No, vabbè, anch'io però. Avrei potuto, anche tu eri la stessa... No, non ero bollito, io ero i romantici, praticamente quelli che... appartengono a sei l'unico fedele raccatta. Cioè, si ricordano perché... del mondo come era quando Yak non era un bot ma era umano e quindi... non noto la differenza però no, no però l'hanno idealizzato tra virgolette. Aspetta, com'è questa cosa? Perché pensano cosa? Che sia uno Yak dalle idee aperte che vada a mangiare fuori che insomma non... com'era da giovane quindi cioè volete un miglioramento della società? Sì, però comunque pur rimanendo io cioè, loro pensano che lo Yak originale non sia così ma sia uno Yak che comunque era più aperto. Ah ok, quindi cioè, ok, cioè sono per l'idea che ci debba essere uno Yakbot ma non questo Yakbot qui. Esatto. Okay. Io per esempio nella fabbrica degli vestiti sgualciti forse un po' ho sbagliato a uccidere il tipo perché in fondo era da una parte. Cioè no, ma in realtà ci stava perché ovviamente la società segreta non deve essere scoperta. E cioè, però, più altro era il fatto che avendo usato il mio potere stavo per essere sgamata. Sì, sì, sì. Ho detto, vabbè, non facciamoci sgamare subito. Invece Arci? E Katta? Io ero della chiesa del primo Cristo computer programmato, quindi praticamente sono un integralista religiosa di Yakbot. Quindi cioè, in realtà sì, sono... Sì, in realtà sì, però lui non potrebbe appartenere comunque a una società segreta, no. Quindi è comunque tradimento. Che sono un traditore. Cioè, tu in teoria però avresti dovuto tipo, cioè, al massimo indagare sul vedere se noi eravamo fedeli, cioè tipo chiederci... Sì, tipo, esatto, mi aspettavo un po' più di... Volevo farle esplodere con loro dentro, però... Vabbè, ma tu lo sapevi però che noi tra sapevo, anni... quindi su uno forse buono. Dei dubbi potevi anche avere. No, però tipo su di me poteva avere dei dubbi. Ma è Arci invece? Sul secondo. Arci era il suo solito personaggio. Cioè? Era uno psionico. Ah no, dico come appartenenza. È psionici. Ah, ok. Cioè la razza umana è l'evoluzione, quindi il mutante è superiore. E il mutante psionico è il mutante più forte. Però comunque gli Yakbot andava bene per lui. No, no, deve morire male perché gli psionici devono governare il... Magari anche gli Yakbot, gli psionici, secondo loro. Io però c'è sulla mia società segreta, non è che sto tanto, semplicemente che si chiama Purge. No, ti avevo detto che distruggi. Ah, sì, no, ok, sì, no, vogliamo un mondo dove si possa vestire, cioè, che praticamente tu e Katta siete e mangiare quello che si pare. Tu e Katta siete gli estremi, esatto. Cioè, tu sei libero arbitrio, Katta è integralista religioso. Ok. Allora. Sì, vedi, a partire dal sistema allora, di bolliti, il nostro sogno è quello di tornare a una società senza Jacobot, in cui, secondo il tuo strano e complottato punto di vista, tutto era naturale, non c'era niente artificiale né firmato, e tutti si nutrivano di cibo bollito di... sì, in realtà, anche la cosa, cioè, delle giacche, a me non me ne frega un cazzo, sono giacche, esatto, firmate. Cioè, tu sei una sorta di... dovrevi essere una sorta di vegano. Beh, però vegano in versione yak, cioè il vegano è il bollito. Normale. Sì, sì, giusto. Ascolta, vabbè, invece io come potere avevo quello di, cioè potevo avere sensi, avevo sensi acuiti, quindi potevo vedere meglio, sentire meglio, barra puzzare meglio. Vabbè, io ero Jinx, ma l'avete detto sentito? Sì. Non so, tu sei. Ho di capirlo il mio, no? Perché... Katta... Io pensavo avesse... Katta invece no, No, il fatto che fossi sempre a bocca spalancata era perché lui mi faceva avere reazioni. Katta in realtà sembrava una roba simile al mio. No, io volevo che crepassi, ma... Sono schillato nel capire come funzionano i macchinari. Ah no, ok, allora... Quindi, è stato quello di cui avevi bisogno. Esatto. Però non te l'hai riuscita, di fatto. Però... però... No, però quello aveva capito. Arci? Sì. Arci? Teletrasporto. Ah, eh? Teletrasporto. Però per esempio Arci, se avesse sospettato che lei è telepate, avrebbe detto fighissima, ci sta. Psionici, vieni. Giusto. È solo che non poteva dirglielo. Perché lo so, è quello il bello di Paranoia. Ed è anche forse il fatto per cui si chiama Paranoia. Comunque, infatti, allora... Anch'io al tizio non è che gli potevo dire, no? Sono dalla tua parte, non sparare. Esatto, sì, sì. Beh, infatti, oddio, l'altra volta che ho fatto one shot è successo. Come dicevi, tu è più giocatore contro giocatore che altro, sì, in realtà. Comunque l'ultima volta che ho giocato, ho fatto una one shot, è successo che un giocatore dicesse all'altro sì, io sono dalla tua parte e scappiamo insieme. Poi sono stati trucidati, però... Può stare. Sì, sì, sì. Sei di società comuni o allora, sì. Le regole, come... non erano esattamente così. Spero che tutto abbia avuto un senso. Quello è il problema, capito? Che ti sente tutto, qualunque cosa dici ti sente. Sì, è tipo onnipresente. L'unica cosa è che tu puoi far provare a fargli capire che sei dalla sua parte in qualche modo. Sì, e sperare però che lui non ti denunci. Sì. Potresti è anche... quello la paranoia. Potresti mandargli un SMS. Ma lo vede? No, no, non puoi mandare un SMS, certo. Lo vede i tuoi soldi, puoi usarli per... No. Sì, okay. Ma se lo fai puoi fisicamente usarli, però poi però viene eliminato e c'è entra il tuo clone. Va bene, basta. Vai, bene. Però a me piace la meccanica di tiro, cioè il fatto sì, che non è questa. Cioè questa peccato perché il mio personaggio era particolarmente OP in realtà. Questa meccanica qua è la meccanica tipica di Numenera. Mai sotto al 15. In Paranoia è simile. L'ho fatto prima Paranoia. Credo 19. È quella. È però ci sono un po' di cose diverse che io ho semplificato. Però sì, la meccanica grosso modo è la stessa. È carina però, che ragioni al contrario, cioè meno fai più carini. Ah, secondo me è stato divertente proprio perché Yak era l'ambiente. Sì, posso dire, a me è venuta la nausea, davvero. Dopo un po' ci disintossichiamo un po'. Esatto, tu esci con Yak immagino stasera. Sì, ti racconto tutto. Bene, direi che Vez puoi fare chiusura, poi intanto, poi vediamo. Sì, facciamo chiusura. Allora, avete visto quello che è un episodio one shot e per una volta nella nostra vita siamo riusciti a fare una one shot che sia una one shot. Di Paranoiac. Abbiamo fatto Paranoiac, scarino, sì. Paranoiac, ma nello specifico era il grande bro e bro era con la B maiuscola e la R di Reiuto. Allora, un paio di sessioni in cambio personale. E quindi niente, vi diamo appuntamento alla prossima sessione che non sappiamo quando sarà. Probabilmente è possibile che ringraziamo Labra per aver partecipato, puoi salutare che potrebbe riapparire in Urban Heroes. Sì, prima o poi sicuramente succederà. La nostra tentativa sarebbe quello di fare petrolieri spaziali. Vedremo se riusciremo a farlo questa settimana. cosa che viene. Vediamo, altrimenti non perché arrivo. Potrebbe essere difficile. Comunque vi aggiorneremo. E grazie di averci seguiti. Seguiteci sul blog. Se vuoi li aggiungiamo alla chat di WhatsApp. Ho un'altra cosa da dire. Anche quando giochiamo direttamente. Se volete essere aggiunti alla chat di WhatsApp possiamo farlo. Anche se nessuno, sta ascoltando. Dunque è iniziata uno spin-off che andrà avanti un po' lentamente, però andrà avanti, di Urban Heroes, di Unstructured Heroes. Sì, Zeroes. L'ambientazione è la stessa, quindi probabilmente ci saranno, lo dico anche a voi, per voi. Sarà un cross... Non necessariamente un cross, ma sicuramente chiavi dell'ambientazione comuni. Sì. Basta. Questo ci sta con gli abruzzesi e i barra benedettini. E detto questo, vi ringraziamo infinitamente per averci seguito. Ma posso fare un ringraziamento speciale? Fai un ringraziamento speciale. Un ringraziamento speciale alla mia amica Giulia che mi segue dalla Finlandia. Che è l'unica che ti guarda. Che è l'unica che ci guarda. No, e la Finlandia... Sembra un posto freddo, però sono sicuro che la sua presenza lo renderà luminoso. Però forse bolliscono tanto le cose. Per uscire da questo personaggio però, questa sessione... È una psicologica buona, bro. Questa sessione ha così tanti inside joke che non è facilmente seguibile da... Però in realtà questa puntata qui la gente potrebbe seguirla per capire tutti gli inside jokes del resto. Cioè, seguite questa cosa, è tipo sarebbe una puntata pilota per tutte le nostre puntate. Per capire cosa c'è dietro, tutte le cose malate, molte delle cose malate che diciamo. E seguiteci sul blog che è RipGDR, seguiteci sulla pagina Facebook che è... Esatto, bravo. Domani... forse spedizioni gratis forse su Society 6 forse se volete un bellissimo cuscino foderato di diamanti un cappello reietto non so se ce l'abbiamo, vabbè, comunque potete ordinarlo. Se no, aspettate il podcast e questo lo farà il Gigno con grande lamentele dicendo che il nostro audio fa cagare, se stavolta è buono, gli altri sono fighi eccetera, ma vabbè. E niente, vi salutiamo. Secondo me è stato buono comunque. Va bene. Va bene. Bye bye. A presto. Ciao bello. Durini!